American Tourister Pack for Stories. Prepara la valigia. Preparati a far festa. Preparati all'estate. American Tourister. Valigie e borse da viaggio. Colorate, leggere e resistenti. Grazie, grazie. Questo ha fatto molto bene alle nostre orecchie. Però una volta ce l'avevamo una sigla di Morti di Bestemmie. Quindi, anche l'orecchio una volta. Carissimi amici di Runtime Radio e Morti di Bestemmie, benvenuti a questo nostro nuovo episodio di Morti di Bestemmie, appunto, quello originale, quello vero, quello delle origini, quello di sempre, che finalmente è tornato dopo tantissimo, tantissimissimissimo tempo. Perché siamo mancati? Perché? Perché in realtà l'altro giorno, riflettendo con Alex Raccuglia, che saluto, ciao Alex! Ciao Alex Raccuglia. Riflettendo con te, Alex Raccuglia, abbiamo sempre detto perché abbiamo iniziato a fare raramente la puntata di Morti di Bestemmie. Perché per fare Morti di Bestemmie bisogna essere un po' morti di bestemmie dentro, cioè bisogna essere carichi, pronti. Intanto c'è Gualdi che salutiamo. Ciao Gualdi. Ciao, io sto vedendo cose spaventose. Si sta a fare una cultura adesso perché non ho avuto tempo prima di controllare la scaletta. E quindi questa sera siamo un po' più carichi, ma più che altro io ho voluto fortemente questa puntata, poi vi spiego perché. E però siamo sempre qui, insomma, insieme a Walter Sbano. Ciao Walter. Ciao, ho covato livore per tutti voi. Bravo, bravo, che insomma si aggiungono al trio originale, cioè io, Alex e Marco. Anche Marco, esatto. E perché alla fine si aggiunge anche il nemico di Marco, Simone Cusella. Buonasera. Ciao, Simone. Perché praticamente insomma siamo quelli della settimana di qualsiasi trasmissione, cioè siamo sempre quelli. Cambiamo solo il nome alla trasmissione e salutiamo insomma tutti quanti, perché questa è una puntata, ve lo dico subito, io ci tenevo tantissimo a fare questa puntata e vi svelo anche una cosa. Io sono sempre stato affascinato dalla questione dei fantasmi, quindi cioè nel senso parto un po', capito, ho un approccio chiaramente profondamente scettico, no? Però c'è stato un periodo nella mia vita in cui un po' ci ho creduto e penso sempre che questi sono argomenti abbastanza interessanti, soprattutto per l'approccio in cui di solito noi li affrontiamo in Morti di Bestemmie, anche se questa volta faremo una cosa un po' diversa, perché parliamo poi anche di morte fondamentalmente. La morte lascia sempre un segno abbastanza indelebile su di noi, è la decomposizione, soprattutto se siamo noi che moriamo, sì, esatto. No, in quel caso non lascia un segno su di noi. Ma sì, marcisce. Sì, ma non è un segno quello è la marciscenza. Marcisce come muore. Però quando rimani, è un segno quello. Essendo praticamente la morte, forse l'unica cosa certa della vita, praticamente comunque ci è morto qualcuno o ci morirà qualcuno, e questo lascerà sempre dei segni. E in merito a questo, io faccio subito la prima domanda ai miei compari, partendo da Gualdi. Sì. Qual è il tuo rapporto con la morte? Ma Scusa, ma hai presentato tutti quanti? Tutti. Sei sicuro? Sei sì. Sicuro? Come no? È quella persona che stava tua contatemi voi. Qui siamo in 5, 1, 2, 3, 4, 5. Hai ragione. No, esatto, il nonno che è venuto qui a farci compagnia. E salutiamo intanto pure quelli della chat, che vedo essere numerosi, giusto Walter? Abbiamo l'Araba e la Moana, perché è una signora, quindi la salutiamo prima. Poi abbiamo Davide Gatti, abbiamo Pier G, abbiamo Enrico. E ci è venuto a salutare, ma credo che ci abbia dovuto già salutare perché aveva degli impegni in lobby frontali. Insomma, la cricca è un po' la cricca di oggi. No, mangiamo e sbaviamo anche mentre che siamo al microfono. Esatto, oramai la professionalità. Aspetta, ma io ho sentito qualcosa. Prova un attimo di nuovo a masticare. No, aspetta. No, scusa, io sono. No, volentieri. Mastica. Aspetta, continua. Sì, ho sentito. Ha detto devi morire. Esatto. Bravo. Vabbè, comunque. Potremmo chiamare un'idea. Posso masticare al contrario, così si sente l'invocazione a Satano. Esatto. Però allora, prima di iniziare a cazzare, proviamo a fare un attimo una cosa seria. Marco, qual è il tuo rapporto con la morte? Beh, non abbiamo un grosso rapporto, diciamo, non so, ci ha mai presentato ufficialmente. Vabbè, dai, su, nel senso, la temi, insomma. Io la temo molto, perché poi, cioè, capito, ti arriva, dice, ciao, sono la morte. Sono la morte. Cioè, sono il tristo mietitore. Sono il tristo mietitore. Ah, il giardiniere. C'è la cara, c'è il giardino, c'è il contadino. Il contadino, no. Alex, tu invece? Non ancora da tanto da vicino, un po' mi ha schivato, ma non ancora tanto e temo il momento in cui accadrà. Detto questo, per quanto riguarda la mia morte, continuo a dire a tutto il mondo, e chi mi conosce lo sa, che il giorno che schiatto io il mondo diventa un posto migliore. O nessuno mi caga niente, cioè sono qua, se qualcuno vuole uccidere non sarebbe. Secondo me Alex, guarda, il giorno in cui muori tu non se ne accorge nessuno, cioè, ancora peggio. Va bene lo stesso, allora ancora l'importante meglio, è che non se ne accorga lui, che era infatti giusto. Gusella, tu invece qual è il tuo rapporto? Io con la morte ho avuto diversi rapporti. tu sei come James Tiberius Kirk che se ne è preso gioco diverse volte, insomma. Sì, sono riuscito a fotterla un po' ogni volta. Ok, sai che poi si vendica. L'ho visto in faccia, l'ho presa per i capelli e... ma poi di cura. E l'ha messa a 90. Sì, i capelli sono. Ah, beh, mi ricorda una scena di Rocco questa, insomma. Tu invece, Walter, con i capelli c'hai un altro rapporto. Ma con i capelli ho lo stesso rapporto tuo e probabilmente di Alex Arcuglia, ma insomma, stendiamo un velo pietoso. No, sulla morte, probabilmente. Allora, quella personale. Però smettila di mangiare e sbavare, per cortesia, quando. Cioè... Sbava e basta. Esatto, che non si vede in radio. No, allora, con la morte personale, un ottimo rapporto, risuscito sempre, quindi a posto così. Con quello attorno a me purtroppo brutto, perché al contrario di Alex mi ha preso in piena faccia quando avevo 21 anni e è morto mio padre, però la cosa brutta è che è stato proprio senza nessunissimo preavviso. Sono uscito di casa per andare al cinema, sono uscito dal cinema e un infarto aveva fatto il suo corso, quindi diciamo il rapporto non è proprio bellissimo, però alla veneranda età di 40 anni probabilmente sono preparato a determinati eventi. Bene, sì, no, ma anch'io ho pagato il mio dazio e devo dire che questa è una cosa abbastanza importante relativamente a questa puntata, perché poi lo vedremo un po' successivamente, il discorso di quanto ti lega la morte al dolore, la morte e la necessità di sapere, questo legame che noi continuiamo ad avere magari terreno con le persone a cui vogliamo bene, no? Questo poi alla fine influenza tantissime persone e le portano a fare delle scelte, insomma, diciamo, andare a fare insomma delle cose che probabilmente potrebbero benissimo non fare, gli costano dei soldi e non, insomma, non è certa la questione. Comunque Marco Gualdi, per esempio, come la vedi tu la morte? Cioè, tu c'hai un approccio scientifico agnostico oppure c'hai una convinzione, cioè, del dopo, no? Della morte, di quando tu muori? Diciamo c'è la speranza, non è che c'è la convinzione, perché secondo me... Quindi sei agnostico, cioè tu non lo sai, quindi non ti poni il problema, però speri che... Magari sarebbe figo tornare. Sarebbe meglio perché figo. No? Sarebbe meglio, sì. Beh, sei morto, però non muori. Sarebbe figo. Però penso di no. Come però c'hai quest'idea che. Forse. Che se stiamo a prendere per culo. Tu dici. Sì, ok, capito. Alex? Questo mi ricorda un personaggio che faceva i podcast con no noi. No, hai ragione, no, ho avuto un attimo di crisi, vero, ti stavo addormentando. Andiamo bene. Molto bene. Andiamo proprio bene, guarda. Poi potresti rifarmi la domanda. Il resto della serata addormentarsi potrebbe essere definitivo. No, praticamente non andare a documentarti direttamente. Mi tocco le palle. Il tuo rapporto con la vita, cioè la vita, la potenziale vita dopo la morte, il tuo è una visione scientifica, quindi pragmatica, agnostica, cioè nel senso non lo sai, quindi non ti poni il problema, o hai una tua visione? Allora, chi mi conosce lo sa, io sono credente. Ma cioè, credo nell'esistenza di un'entità superiore che possiamo chiamare Dio, ma non credo nella vita dopo la morte, cioè nel senso penso che boh, probabilmente se Dio esiste, e dovrebbe esistere dal mio punto di vista, manco sa che ci siamo, un po' come se noi facciamo andare un fulmine in una scatoletta, lì dentro si crea un mondo che vive, cresce e poi muore nell'arco di un nostro secondo, e per loro sono passati 4 miliardi di anni, noi non ce ne accorgiamo e c'è stata vita lì. Io penso che sia una roba del genere, però boh, sarebbe incontento di essere smentito. Ok, Simone? Io sono un po' confuso al riguardo. Vabbè, tu sei anche giovane. Non hai motivi ancora di pensare alla morte come me. Io tutti i giorni ci penso. Perché si avvicina, sta lì, si avvicina, no, e ti fa ciao. Ma non sai se ti fa ciao o se ti allunga il medio. Esatto. Questo non lo sai. Perché è ancora abbastanza lontano. Prego. Sono confuso perché da un lato penso che che ci sia il nulla, letteralmente un'assenza di niente, di un'altra vita, un'assenza di un'altra esperienza, di altre sensazioni, e però mi incuriosisce molto questa cosa, cioè qual è il senso della nostra esistenza e, voglio dire, perché necessariamente dobbiamo esistere, quindi che cosa succederà dopo la morte, insomma, ci sarà un'altra vita, una resurrezione, o semplicemente vivremo ancora in questo corpo però in un'altra dimensione, non lo so, è tutto molto da definirsi. Bene, Walter? Allora, difficile. Allora, premesso che per me noi siamo figli del caso, quindi non siamo le uniche forme di vita sicuramente nello sterminato universo, ma non credo ad entità superiori, di conseguenza credo che dopo la morte diventiamo concime, punto e basta. Concime per l'universo. Bene. Io invece ho una posizione agnostica, cioè nel senso non posso... Diciamo che penso tendenzialmente all'inesistenza, quindi cioè proprio quando il cervello si spegne tutte le nostre esperienze, tutto ciò che siamo finisce lì, però non posso escludere il fatto che sarebbe anche uno spreco, no? Cioè nel senso, pensate, miliardi di persone che generazionalmente vivono, muoiono e poi tutto quello che loro sono finisce lì, cioè è uno spreco di risorse, è uno spreco di energia, proprio assolutamente inutile. Quindi diciamo che penso che secondo me ci può anche essere un'altra ipotesi, ma non sapendolo diciamo che non mi pongo il problema, per evitare insomma di avere l'angoscia che poi dopo divento niente. La paura del niente penso sia una delle peggiori, no? Non so se la condividete. Simone, ma che cosa paura? Lo scopriremo solo morendo. Il problema è che vuole scoprire stasera. Il problema è che il problema è se tu poi lo scopri morendo, allora c'hai già una risposta. Se non lo scopri, se è morto non lo scopri, vuol dire che non c'è niente da scoprire. C'è niente da scoprire. Esatto. Comunque, ammettendo invece che ci sia una vita dopo la morte, Marco Gualdi, parto da te. Sì. E secondo te questa vita, quindi questa post esistenza, è compatibile con il nostro piano di esistenza? Cioè nel senso, è possibile che io, entità spirituale, condivido teoricamente lo stesso spazio fisico dell'entità vitale? No, dove no. Perché? Perché secondo me ognuno c'ha il suo posto, il suo posto, cioè morti coi vivi, vivi coi morti, esatto, cioè, esatto. Questo casino vengono qui a rubarci la vita, esatto, cioè, no dai, morite a casa vostra, esatto. non venite a romperci le palle. Io non penso che ci siano queste interrelazioni, penso che ci sia, non so, forse qualche cosa in cui non si è del tutto cosciente di quello che si è, ma che si è qualcosa. Alex? Bah, io come ti ho detto non credo la domanda dopo la morte, no, la domanda per cui... parte dal presupposto, ammettendo che, cioè, fai lo sforzo di fantasia. Sì. Ok, allora, razionalmente parlando ti direi che se è, sta da un'altra parte. Però devo dirti che archetipamente, dato che la nostra cultura arriva da millenni di queste cose qua, nel senso, faccio fatica mentre razionalmente penso sì, ok, sta da un'altra parte, irrazionalmente dico no, secondo me stanno qui attorno a noi. E io infatti devo dirti la verità, quando ero piccolo io pensavo che mio nonno si era reincarnato nel mio gatto. Ma c'era un motivo per cui e se facevo tipo una scoreggia, una cosa, il gatto vedeva e di cazzo mio nonno. No, io invece ce l'ho peggio la cosa. Beh, nonno sarebbe stato fiero di sentirti trombeggiare, insomma, come da buon nonno. Io quando andavo al bagno e mi masturbavo, come ve lo dico, pensavo al fatto che essendo morto mio nonno, c'era lo spirito di mio nonno e che mi guardava e mi giudicava, esatto. Pensa, questa... Che ti guarda e dice guarda come piccolino. Io non l'ho... Il pisellaggio che c'ha questo. Io non l'ho detto perché sono una persona sensibile, però è ovvio che anche quello. Quindi tu non facevi mai venire il gatto in bagno. Quindi vabbè, Simone, invece tu pensi che ci sia questa... Ma io ho una mentalità sempre scientifica, per cui a priori cerco prima la strada, diciamo, logica, razionale. E la scienza ci dice che esistono tantissime forme di energia, non si sa, infinite, praticamente noi conosciamo l'1% di esse, quindi secondo me... Dove l'hai letta queste stronzate? L'hai letta su un canale YouTube che esistono infinite forme di energia? L'hai letta su Facebook. L'hai letta su Focus, anzi hai visto su Focus. No, su un gruppo Facebook che si chiama Energie con la K. No ragazzi, c'è anche una canzone che lo dice, che è praticamente certo che esistono altre forme di vita. Scusate, ma che cos'è? Gran canzone. Esatto. No, beh, sinceramente penso che l'uomo debba ancora scoprire questo secondo me è un fatto, sì, che è chiaro, queste cose che in futuro sicuramente scopriremo, magari ci sarà qualcosa di quello che noi ora chiamiamo paranormale. Walter? Guarda, io è strano, sono un po' combattuto in questo, perché da una parte penso che l'unico spirito sia l'alcol, però dall'altra il pensiero che una sorta di anima, tra virgolette, alberghi nel corpo e che in qualche modo però si dissolva al momento della morte, quella cosa che ci rende individui, no? Quello che potremmo chiamare la personalità o il libero arbitrio, non lo so come lo vogliamo chiamare, io in qualche modo sono persuaso che esista, però secondo me con la morte è difficile che il corpo è un guscio che trattiene questa essenza. Una volta che il corpo muore, secondo me questa essenza, se c'è, si disperde e basta. Infatti lo sai che quando tipo tu muori dopo 2 minuti caghi, perché appunto non riesci più a trattenere. Sì, esatto, questo però è per... questa sì, è questa è per un'altra ragione. No, esatto, però c'è il discorso dei 21, no, dei 21 grammi, che qualcuno ha stimato essere il peso dell'anima, no? Il famoso 21 grammi. Addirittura c'è qualcuno che ha detto di aver misurato l'energia luminosa che si disperde al momento della morte. Quindi non sa, deve sì, scorreggia. No, ma perché ragazzi, questa sera ne scopriremo di belle. Comunque, penultima domanda, facendo un altro sforzo di fantasia. Guardi, se qualcuno ti dimostra l'esistenza fisica, cioè nel senso visivamente il fatto che ci possono essere dei fantasmi, diciamo così, no? Ok. Secondo te, tu questa cosa te la spiegheresti come una sorta di residuo energetico di una vita che magari è passata, come scarto, diciamo così, energetico, oppure secondo te possono esistere entità coscienti che in qualche maniera si manifestano? Se fossero coscienti farebbero cose interessanti, tipo viaggiare per il mondo, vedere cose, come l'utente posti. Medio di Facebook. Vabbè, quello non gli frega niente allora. Ma se è fantasma, fa che cazzo ti pare? Perché devi stare lì a infestare le cose? Ma che cazzo? Beh, secondo la logica dei fantasmari, in realtà il fantasma spesso e volentieri è legato, per motivi di un trauma, a un luogo, a una situazione. Quindi un residuo, in quel caso. Il residuo è praticamente un evento ciclico che si, cioè, secondo loro. Invece c'è la persona che magari per qualche ragione rimane imprigionata in quella situazione, tu devi andare lì e arriva The Whispered con il zinnone? quella ditta che va là e deve trovare il perché questo qua sta ancora lì legato, e dopo che ha risolto il problema questo finalmente se ne va dalla luce. Aspetta, ma il Ghost Whisperer o il Medium? Medium non lo devi neanche nominare, perché la bruttezza di quella donna mi faceva paura più lei che... Oh, è un archetto, quella comanda. No, Medium inglese, tu non conosci. Mi sa che non ah no, Medium. Quella è una regione. Medium, aspetta, fermo. Medium era quella bionda che quella dici. No, c'entra niente. Ma noi, prima di quello, dovete sapere, tutti questi telefilm americani hanno preso spunto da una serie televisiva inglese che si chiamava Afterlife. Ragazzi, dove c'era sta attrice protagonista che era spesso in molti telefilm inglesi. Esatto, che era veramente, ragazzi, da una brutta. A me mi faceva quella serie, mi faceva paura perché c'era lei. Cioè, la faccia la matta, andava la gente, diceva: io vedo i fantasmi, ti posso dare una mano. La gente avrebbe stremiato, esatto, perché giustamente. Perché è normale che uno te bussa e Alex viene da te e ti dice: io ho parlato con tuo nonno. Con tuo nonno, e basta, non te devi fare le seghe in bagno. Esatto. Vabbè, quindi per te. Non lo so, io. Beh, forse in quel caso potrebbe essere, visto che stanno sempre sullo stesso posto, non fanno mai niente di interessante. Esatto. Cioè, secondo me potrebbe. Sono residui. Sono residui. Ci stanno là. Ok. Simone? Ma calciare. Io non lo so, non so neanche se sono in grado di dare una risposta a questa domanda. Se vuoi dare, ma neanche, non vuoi neanche dare. No, non c'ho voglia. Ok, vai Walter allora. Se il presupposto è che qualcuno mi ha già spiegato e dimostrato l'esistenza di questi che chiameremmo fantasmi, spiegamelo fino in fondo e non mi rompere i coglioni, perché devo rispondere io? Alex? Ah, ma ci sono le domande scritte sul foglio, ma fa' il culo. Posso rispondere alla domanda di prima? Vai, la penultima domanda, vai, rispondi. Lo so, lo faccio apposta per farti incazzare. Ti chiamo Luigi adesso in poi, No, hai ragione. No, allora, No, io se, allora, se proprio ci devono essere fantasmi, secondo me qualcosa si ricordano. Non tutto, però qualcosa sì. E... quindi sono parzialmente coscienti. Ma se, allora, posto che io non ci credo, se dovessi crederci a questo punto mi prendo proprio il full, certo, il full certo, monty, nel senso che sono se ci devo credere, dico, ci devo credere. Te stai a fare seghe. No, guarda che diventi cieco. Hai fatto le scuregge. Lo so io, mortacci tu. chiaramente è così, insomma. Vabbè, allora l'ultima domanda. Secondo voi le persone che in qualche maniera, insomma, che magari con criterio, cioè senza dandogli un approccio insomma più serio possibile, indaga sul paranormale, tutto ciò che un po' viene che esula un po' dalla scienza convenzionale, secondo voi sono necessariamente cialtroni? Ma di brutto, sono delle merde. ti secco subito così. Marco? Guarda, secondo me sono i cialtroni, le merde, quelli che in realtà ci credono e in qualche modo cercano di trovare una prova realmente, perché loro ci credono, sono convinti, però secondo me questi sono la minima parte. Negli altri sono dei cialtroni che sanno che stanno facendo delle cazzate, ma comunque ci speculano sopra, e altre sono proprio delle merde. Sono dei cialtroni che dimostrano di esserlo, giusto? Che è l'unica cosa che sono in grado di dimostrare. Walter? Sì, esatto. Allora, dipende, nel senso, se stiamo parlando tra virgolette di scienziati nell'ambito, per esempio, della fisica o di altre branche. No, stiamo sempre parlando di persone che esulano dalla scienza convenzionale. No, cialtroni col timbro di garanzia, no, assolutamente. Io però questa cosa, pur essendo sostanzialmente d'accordo con voi, adesso vedremo quanti cialtroni esistono, penso che però non tutti necessariamente sono dei cialtroni. Io, secondo me, c'è gente che sperimenta o cerca parzialmente di sperimentare un qualcosa che esula dalla scienza convenzionale anche in buona fede. Non è detto che debbano essere, no, forza, che poi siano magari dei cretini che credono delle cose che non esistono. Questa è una mia opinione, però, cioè, voglio dire, secondo me c'è anche gente che le cose le fa seriamente. Beh, però se ti inventi delle scienze o delle pseudoscienze, dei fenomeni o dei metafenomeni di sana pianta per giustificare la tua ricerca, sei un cialtrone. Sì, beh, è chiaro che poi dopo, alla fine, vabbè, ma noi stiamo a parlare sempre di ciò che viene poi definito convenzionale. Facciamo un attimo un esempio. Adesso iniziamo a parlare di, soprattutto sui canali YouTube, esistono una serie infinita di gruppi che fanno praticamente investigazione paranormale, ossia praticamente vanno nei luoghi chiamati da qualcuno o non chiamati da qualcuno, spesso anche non chiamati, vanno in questi luoghi, fanno una sorta di ispezione, di investigazione, e cercano di interagire con le forze che loro presuppongono essere nel luogo. Ora, prima di parlare di questi gruppi in sé, diciamo che tutti quanti utilizzano la stessa dotazione, ossia praticamente di solito hanno un rilevatore di campi elettromagnetici, ossia un rilevatore di anomalie di campi elettromagnetici, dove l'anomalia elettromagnetica viene segnalata praticamente da un potenziometro che ti dice quante anomalie elettromagnetiche c'è in quel punto, e questo, secondo loro, in determinate situazioni al di fuori. Non farci caso, sto preparando i video. Vai. Ho capito, però se io parlo poi dopo non riesco. Se io rido, tu ridi. Poi, detto questo, ci sono poi altri strumenti, ad esempio la fotocamera termica, che praticamente il K2 che cos'è? Il K2 è il rilevatore dei campi magnetici. Esatto. E poi c'hanno questa Ghost Box, che praticamente è questa sorta di ricevente radio, che fa una scansione delle frequenze radio in AM da una banda X a una banda Y, adesso non sappiamo bene, una sorta di scansione ogni 200 millisecondi, e con questo loro ci parlano con i morti, no? E questa è la cosa fantastica, perché loro prima vedono, ci sono i campi elettromagnetici, sì assolutamente, è vero, cercano di interagire con queste entità tramite il campo elettromagnetico, cioè gli dicono: se tu sei veramente qua, illuminami per 3 volte il rilevatore dei campi magnetici, il rilevatore dei campi magnetici si illumina per 3 volte, allora c'è l'entità. Accendono il ghost box e ci parlano, e questo gli dice: so Gigi, no, perché... E la cremeria c'è? Esatto, di solito poi quello è il problema, perché quella non c'è e Gigi si incazza. E possiede qualcuno? Possessione è raro. Succhia l'energia. Esatto, succhia l'energia, oppure addirittura fa delle manifestazioni fisiche sulla pelle. pelle, sulla pelle, capisci? Allora, la maggior parte di sti gruppi ti amputa un braccio. Eh? Ti amputa un braccio. No, amputa, no, magari ti lascia un graffio, per dirti, no, cioè nel senso. Okay. Ma allora, il gruppo, allora, la maggior parte di questi è chiaramente spettacolarizzazione fake in un modo incredibile. Per esempio, io prendo, cioè io li seguo, mi sono iscritto, li commento ogni tanto perché sono stati pure in televisione a Mistero e tutto quanto, il PIT, il Paranormal Investigation Team, che sono dei cialtroni incredibili, cioè nel senso è veramente fake quello che loro fanno, ma è talmente fake che a un certo punto, dato che loro oramai hanno un X numero di seguiti, non so quanti sono gli iscritti adesso. Ci clicco e guardo, così non fatevi prendere un colpo dall'autoplay del filmato su YouTube. Il PIT ha 83. È l'unico, secondo me, veramente degno di nota, 83.000 iscritti. Sì, è quello, perché è stato anche in televisione, quello che c'ha più iscritti. Poi però, ovviamente, loro, vedendo che avevano sempre questo seguito e che comunque la gente, comunque sia, indipendentemente da tutto, credeva a queste cose, loro hanno cominciato a romanzare praticamente le varie situazioni, fino a essere arrivati a un punto in cui un certo Mr. X li traccia hackerando praticamente i loro dispositivi e gli dice delle coordinate dove andare a trovare dei dispositivi che gli aiuteranno nella loro ricerca dell'extraterrestre. Non lo so, però non so come si chiama, lui si fa chiama tipo Anubis Asgazimbusis, ma la cosa bella è che se tu vai lì e in uno dei video a caso, prendi un video a caso, Marco, prendi un titolo, leggi un titolo: la casa nel bosco, un demone ci ha attaccati, perché chiaramente ogni volta succedono eventi sempre più grandi. Sempre se, a loro poi, Se, esatto, se, beh certo, sono loro che vanno. Però se tu vai lì a scrivere, vabbè ragazzi, però a me, cioè, vi stimo, però insomma siete un po' dei cialtroni, si incazza la gente, perché tutti dicono: ah, bellissima investigazione, al minuto 3.42 si vede un orbs. Attenzione, minuto 15.17 io ho sentito Heidi. Ho sentito Olivia. Sì, poi c'è gente che alcuni ha detto Enrico. Esatto, alcuni lì. Ma nella testa, l'hanno sentito. Eh sì, perché loro quando usano sto ghost box, praticamente parlano con sti morti. I morti gli rispondono, loro mettono il sottotitolo perché lo fanno un po' spruzione, ma lì per lì non capiscono un cazzo manco loro di quello che, cioè, praticamente se le, che poi io se io ascolto, a me, io sento dei suoni che sono diversi da quelli che dicono loro, cioè nel senso, però vabbè, tu te fai suggestionare da quello che c'è scritto nel sottotitolo e... caro amico mio culattone, aspettami, questa, esatto, è una citazione. Esatto. Insomma, ma adesso si metterà eyeliner, fatemi capire, vabbè, non lo voglio, sì, neanche, non lo voglio neanche sapere. Ora, questi qua praticamente, sì, ogni volta poi se... E poi dovete capire una cosa importante, soprattutto il Pit, in maniera particolare, che prima andavano a cercare i fantasmi, che ne so, nonna morta o roba del genere. Poi adesso sono tutti demoni e bambini. Cioè, praticamente voi dovete capire che nel mondo sono morti più demoni e bambini che... Aspetta, il demone è la conseguenza della morte, non è che... Sì, hai ragione, vabbè, nel senso che comunque questi non andavano, era un bambino, cioè c'erano bambini, beh, fino a morti tanti bambini, a frotte dei bambini, tempo. sì, ma cioè nel senso... Sono tutti quelli mangiati dai comunisti, se tu, esatto, se tu vai lì e fai... Se vanno in Russia, secondo me fanno il pieno. Quello è il problema, ma non pure in Emilia Romagna, comunque bastava... Marco... Però quelli in Emilia Romagna li conosci perché sono avvolti in una piadina. Esatto, no, io ho visto del Pit quando sono andati a caccia di Dracula. Sì, è vero, sono andati pure in Transilvania. Che poi a questi gli danno pure i permessi di andare, sì, nel Transilvania. Non so se c'è avuto il permesso, però insomma sono entrati, sono andati nel castello di Dracula in pieno inverno, pieno di sì, 30-40 centimetri di neve. Hanno fatto 4-5 puntate in Transilvania. Esatto, tipo sono andati pure nel cimitero che si scoperchiavano le tombe da sole. Vabbè, comunque in ogni caso sono andati lì ed era bellissimo perché avevano appoggiato sta ghost box che era una scatoletta che lampeggiava blu e che faceva no, quella fa tu perché fa la scansione delle frequenze elettriche, ma poi K2 ma poi con Dracula in che lingua ci vogliono parlare, questo io voglio capire. Vlad c'è pesce, Vlad, poi rispondeva in italiano. No, perché adesso registriamo qualche cosa, lo facciamo sentire al madrelingua, perché giustamente lo spettro parlerà in romeno, neanche il romeno di oggi. No ragazzi, lo spettro, essendo in un piano dimensionale parallelo, non è che parla le nostre lingue, le parla tutte nello stesso tempo, esatto, tutti capiscono qualcosa. Infatti loro una volta hanno parlato con un bambino di un anno, che io voglio capire come fa il bambino di un anno a parlare. Un anno quando è morto, ma se sarà parlato, no? Certo, c'è un po' di filo da scuola nel mentre. Scuola dei fantasmi. Comunque, in ogni caso, questi proprio con la faccia. Ah, guarda, no, guarda. Allora, guarda. C'è quello con la barba che è incredibile. Quello che... esatto. Male. Lei poi, vabbè, lei è terribile. No, Vuole portare via l'energia. Lei sarebbe quella con la barba. Prendila dalle attrezzature. La bionda l'energia. È insopportabile. Cioè, ho i brividi, ho paura. Statene a casa. Si sente male ogni tanto. Sì, ma sgnacchera. Cioè, vabbè, sì, insomma. No, è carina. Sì, c'ha un po' i denti storti, ma vabbè, chi non è può essere perfetta. Invece quello con la barbetta, con i capelli un po' più lunghi, quello... Se voi guardate i video, lui fa se... il suo compito. Il suo compito all'interno dei video è... Capito? Cioè, esatto, bravo, esatto. E poi... Attenzione! Poi la cosa che mi fa cazzare è che sparolacciano, cioè nel senso, cazzo, guarda, ma cioè se sta a parlare con Vlad... E dici cazzo. Allora, che eccellenza, esatto. Che cazzo. Facci vedere la tua potenza. Alex, tu che ne pensi? Che poi tra l'altro, guardando questi video, ti ricordi il famoso trailer che facemmo noi dei Monti? Sì. Quello era. Vai Alex, a te la parola. Allora... tra l'altro in chat c'è un'interessante discussione con Pier G che dice: chiunque in malafede si approfitti delle convinzioni e credi altrui andrebbe messo alla gogna come nel Medioevo. Io ho sempre detto, anche parlando di qualsiasi cosa, che il problema non è mai in chi vende ma in chi compra. Il grosso problema, me ne sono accorto essenzialmente da quando abbiamo votato l'ultima volta, dove siamo arrivati in soltanto 4-5 mesi. E il problema è che se siamo in una stanza in 10 e due sono coglioni, questi due coglioni lo prenderanno nel culo da tutti. Se però in una stanza ci sono 9 scemi e uno normale, è quello normale che lo prende nel culo, perché fondamentalmente è sommerso dalla coglionaggine. E allora il mio nuovo livello è: se tu sei coglione è colpa tua, però se tu sei coglione è anche colpa mia, cioè di tutti noi, il fatto che tu sei diventato un coglione, che tu non hai avuto gli strumenti o non hai usato gli strumenti a tua disposizione per uscire dalla tua coglionaggine. Ed è una cosa terrificante in tutto questo. Allora, questi qui fanno il loro mestiere, cioè loro fanno visualizzazione su YouTube, fanno il loro, cioè il fantasma è una cosa, ma come potrebbe essere... Beh, loro fanno spettacolo, nel senso loro non, cioè, esatto. Allora, loro non negano... Cioè, nel senso di essere dei cialtroni. Loro chiaramente non ti diranno mai sono dei cialtroni, anche perché secondo me entri in un meccanismo un po' pericoloso. Perché se tu non è che puoi andare a dire a tutta la gente che a 50.000 persone che sono convinte che tu fai questo, di vabbè ragazzi, ma noi in realtà facciamo spettacolo, perché io li tengono sotto casa e te bruciano casa. Capito? Cioè, c'è anche da dire. No, non lo fanno. I leoni da tastiera stanno dietro una tastiera, non alzano. Incastrano il fantasma in casa. Comunque c'è gente che gli fa i complimenti, bella recitazione, bravi. Sì, no, ma però c'è qualcuno che no, però ripeto, allora questa cosa qua è come i vari misteri, quelle cose terrificanti. E un po' tutto quello che si trova sui canali terrificanti da Focus in giù, perché sono cose terrificanti, ma lo stesso dicasi di, come si chiama, di National Geographic Channel. L'altro giorno stavo guardando, o Discovery, non mi ricordo, sì, forse era Discovery, stavo guardando la Shark Week e ci sono loro che non c'erano i fantasmi, c'erano gli squali, ma l'approccio è sempre lo stesso. Oddio, ci ha tirato. Sì. È una cosa che dopo due minuti mi dà fastidio, essenzialmente è una cosa che proprio mi dà fastidio, però la gente ha bisogno di questa cosa. Ci abbiamo qua. Fatto la prima puntata delle morti delle bestemmie, se non la seconda. Esatto, cioè, esatto. Il concetto era quello, no? Perché alla fine tutte queste trasmissioni dove poi alla fine non si vede un cazzo. Che poi lo dicevamo proprio l'altro giorno con Walter, che poi adesso passo la parola pure a loro. Cioè, nel senso, ma come nell'era del 4D, del 4K, dei sensori, dei cellulari che sono ipersensibili a livelli di alt ISO, ogni volta che c'è da inquadrare un UFO, se ne cazzo, tutti i pixel a quadrettoni tipo Vic20. Cioè. Vabbè, comunque in ogni caso, anche bei commenti, simpatici, molto pieni di grammatica e di italianità. Certo. Come questo, raga, il nome dello spettro è Olivia, lo ha detto, l'apostrofo sì, O sì. Con l'H, sì, A sì. Con l'H, detto, quindi qui ce l'ha messa anche troppo. Sotto gli ho detto, guarda Giuseppe, addio grammatica, e l'altro l'ha corretto, si dice l'ha detto, cioè almeno correggi. È giusto, quel O va bene. No vabbè, ma in generale è bello perché è proprio bellissima indagine, grandi, ho avuto paura, al minuto 27 si vede un orbs, capito, tutte queste cose. Che così. Cos'è un orbs? Spiegaci. No, poi tra l'altro un orbs, cioè nel senso, come dire, io vedo una sfere, esatto, cioè nel senso è un po' così. Walter, invece qual è il tuo pensiero? Ma allora, io ho guardato un po' i vari, perché non essendo particolarmente amante del genere, ovviamente mi sono come dire, ho seguito i link che c'è dato oggi nella scaletta e ti dico, ci sono due differenze. Quelli che hanno 10, 20, 50 iscritti neanche li considero, perché sono palesemente così cialtroni da non riuscire neanche ad attirare il loro pubblico di riferimento, no? Gli altri è spettacolo, se lo prendi come spettacolo è come qualunque altra cosa, cioè sono anche divertenti da vedere, no? No, ma infatti io il pit, cioè per esempio lo guardo volentieri proprio perché, cioè, lo considero, cioè anche perché, scusa, laddove c'è un pochino di mezzo tecnico nella produzione, un pochino di qualità, è anche una forma di intrattenimento gradevole, costa poco. Sì, a volte diventa un po' ripetitivo, tant'è ma che poi questi canali tematici sono sostanzialmente, se venti il demone che ti ha mozzicato il braccio, così come quello là che ti ha hackerato il cellulare per dirti che ha costruito un dispositivo per acchiappare i fantasmi e te l'ha messo dentro la casa del matto. Essendo dalla messa, sì. Esatto. Invece Simone, tu che pensi? Tu che... Ma io, quando ero un po' più giovane, ancora più giovane, guardavo in televisione, forse su D-Max, credo, c'era questo programma. Oh, a giovane, okay. D-Max c'è da due anni, ma che vuoi, che cosa intende? Beh, no, no, che no, da due anni? Che era quello prima, vabbè. Certo. Scusate. Però alla fine non so se sia partito, so, io ho sentito come esatto, infatti sentito, no, io però cioè, vuol dire che ho messo un link sbagliato. Vai vai Simone, scusa. E questo programma che alla fine, vabbè, sono alla fine uguali a questi video di YouTube, semplicemente in formato adatto alla televisione, quindi un po' più lunghi eccetera eccetera, e li guardavo perché sì, facevano un po' ridere, cioè effettivamente, come hai detto tu, queste riprese in cui chissà perché l'audio è tipo in 3 kilobit al secondo e il video è tutto sgranato, non si vede mai niente, quindi devono aggiustarlo in post produzione, chissà come mai viene fuori il fantasma giusto lì, no? Che poi Alex, tu che sei un po' anche tecnico, cioè nel senso, secondo me l'infrarosso è stata una delle più grandi trovate per quanto riguarda sti spettacoli, perché a volte è oggettivamente inutile, perché io non posso neanche pensare che questi stanno totalmente al buio con le lampade a infrarosso, quindi andrebbero a sbattere, cioè, ogni due per tre, quindi almeno una piccola torcia ce l'hanno accesa, no? A quel punto uh-huh. A che cazzo serve andare a giro al buio all'infrarosso quando poi in realtà, voglio dire, cioè, potresti tranquillamente andare con due torcette, insomma, cioè oggi le fotocamere di oggi comunque riprenderebbero ugualmente, magari con un po' di grana, ma tanto, cioè, voglio dire, rispetto all'infrarosso che fa comunque schifo, va tutto bene, no? Vabbè Simo, scusami, ma quelli sono i tagli che hanno dato i format di riferimento, questi pseudo docu fiction americani, no? Queste cose hanno iniziato a farlo loro, costa poco riuscire a farlo anche semiamatorialmente, penso. Poi magari Alex ce lo dice meglio, però è proprio fictionario, secondo sì, me. Sì, ho capito, ma infatti per questo stavo a parlare, l'ho fatto a Alex come tecnico proprio per dire, comunque sfatiamolo anche questo fatto che, cioè, è veramente oggettivamente insensato oggi. Ma è sempre insensato, però ricordi che il 99% della gente che guarda una televisione neanche si rende conto che c'è una telecamera. Quando vedono il porno che dice amatoriale, che dice sì, ma guarda che c'è un'altra persona nella stanza che sta facendo le riprese, non riesci neanche a pensare. Ah, una cosa, ma di che va anche bene? No, l'unico porno amatoriale è il POV, perché cioè nel senso, guarda come tecnico, ti metti la telecamerina in testa e tra. Sì, però io non so voi, però la famosa mi sembra la cosa più artefatta del mondo, cioè proprio nel senso, preferisco la camera fissa appoggiata sul comodino, che almeno dice vabbè, quello qualcosa potrebbe essere, quello che il POV è, nel senso non... Esatto. No, vabbè. Alex è un purista, Gio D'Amato, questi comunque, classici, comunque sappiate che su YouTube di sti fregni ce ne stanno veramente tanti, tipo di che cosa, ne so, Bob? Il NAC, cioè Segugi del Paranormale, capito? Questi vabbè sono ragazzi, dobbiamo fare anche noi, infatti è quello che ti ho sempre detto, cioè noi abbiamo sbagliato tutto nella nostra vita, Italian Paranormal Research, capito? Parliamo di questo, uno dei primi link che hai messo, di questo MAC, appunto, sì, scusa, era proprio quello, Segugi del Paranormale, 32 iscritti di cui uno sei te, scommetto. Esatto, un applausone. Esatto, no? Esatto, e gli ho messo anche qualche like perché se lo meritavano. Oppure c'è Rip Ghost, questi proprio sono fantastici. Oppure Jeep, guarda, però ti posso dire che questo gruppo Mac... indagine sul paranormale. Poi questa cosa del concetto dell'indagine è bella, perché loro dicono che prima fanno il sopralluogo, quindi perdono un sacco di tempo questi, capito? Vanno per un sopralluogo, già intorno, poi devono aspettare la sera, perché queste cose solo di sera si possono fare, non è che tu poi dici oh, Alex, dei giorni i fantasmi lavorano. Alex, tu che sei un paranormale, no? Tu che sei un para... Tu la solo la sera ti manifesteresti, no? Sennò, cioè... Ma di brutto, quando fa della via il sole. Ragazzi, è arrivato Matteo Ridotto che ci chiede: ma di cosa si sta parlando? Di porno, per ora. Di pop per il momento, Matteo. Quindi, ciao, insieme a tutti questi gruppi, c'è poi alla fine, e questo veramente vi dice quanto la dice lunga, insomma, YouTube, a parte il pit, insomma, di cui abbiamo già parlato, c'è Gianmarco Zagato, che è uno youtuber molto famoso, ha una marea di iscritti, insomma, è un influencer importante in Italia, che anche lui ha a un certo punto, diciamo, ha posto praticamente la sua fama proprio grazie al paranormale, dove lui fa praticamente tutti i riti demoniaci, quelli, insomma, tipo, che ne so, quello degli specchi, quello delle sette sedie, quello dei cinque candele, quello che... di tre re, c'è anche tre re, mi sembra, e quello del re, esatto, bravo, quello della cadrega, esatto, che praticamente lo fa sempre con la sorella e con la cugina, che sono sempre spaventati a morte, non e sempre c'è dicono cosa più divina, non lo faremo mai più, spaventare la cugina. No, guarda, non credo che Zagato gli interessi la cugina, sì, sì, da come si mette la inale, secondo, esatto, me non, sì, c'è il cugino, no, secondo me sì, infatti, però vabbè, insomma, per carità, è simpatico anche per quello, perché poi lui è, ma lui fa sti video che sono allora, perché poi dopo, ok, cioè, nel senso, il pit, comunque il dubbio, cioè tu lo capisci che è romanzato, però un po' il dubbio su alcune situazioni devo anche rimanere, perché comunque loro rimangono nel loro ambito. Invece lui fa queste cose che sono talmente fake, che se tu vai, a me la cosa che mi sbalordisce, ragazzi, è quando tu vai a dire: ragazzi, sta roba è fake, si incazza la gente, perché è piena di sti ragazzini che non accettano che non tu è vero, esatto, che tu critichi il loro, come quando un bambino questi di 10 anni, a 18 anni, mannaggia le bestemmie. Ma vuoi sapere che fanno a 18 anni questi? Non lo so, però volano 5 stelle, ecco qua, apposta, è finita la trasmissione, arrivederci, adesso mano, via l'audience dimezzato, esatto. No, non mi potevo trattenere. E niente, ma Marco, come dicevo, come che bambini di 10 anni che riceve wrestling e fa su. Però vedo che tu hai una pagina interessante aperta. Ma io ho diverse pagine. Allora, c'è una pagina che è fantasmi ed altri fenomeni paranormali. Qui vi leggo i vari commenti veloci di alcuni titoli per farvi capire il tema. Magari anche magari sull'argomento, cioè, sul titolo, il titolo. E poi i commenti più due o tre commenti più rilevanti. Perché la maggior parte dei commenti sono delle faccine stupide, quindi però c'è la news: sai che le persone che hai amato ti visitano dopo che sono andate in paradiso? E c'è uno che risponde: lo so dai tocchi. Questo viene toccato durante il notte, però gli fanno l'appoggino. Cioè, posso dire una cosa semiseria su questa cosa che lo hai detto? Lo dico, però, Marco, allora, questo no... basta che non è una cosa, no, è una cosa semiseria, sempre diciamo per le vicissitudini personali. Questo è, secondo me, semplicemente un discorso sia di suggestione, sia del fatto che anche inconsciamente tu rimugini su quelle che sono le parentesi della tua vita che non consideri chiuse, e di quello che hai lasciato in sospeso tuo malgrado e che non potrai richiudere. Senza stare a fare ragionamenti paranormali, io tante volte ho sognato mio padre come se ci stessi parlando veramente. Ripeto, un po' è una suggestione, un po' è la mia mente che anche nel sonno, anche nelle lucubrazioni, ritorna a quelle cose che uno non ha fatto il tempo a dire e che in qualche modo rimpiange. Tutta una serie di meccanismi assolutamente naturali. Mi dispiace che non c'è lobby frontali che magari potrebbe spiegarla meglio. Appure a te ti diceva come il nonno de... Però, no, no, ma io quello che dice lui io lo capisco, il perché il concetto che esperienzialmente trovare quando dopo morto fondamentalmente è vero, ma è vero per motivi diversi da quelli che si ritengono in questi gruppi, ecco, cioè, di questo è anche un modo in cui noi tante volte rielaboriamo determinati, sì, procedimenti. Io per esempio, dopo poco tempo che era morta mia madre, mi ricordo una cosa interessante. Cioè, una notte sognai, allora questo va, lo so, forse magari un po' rovina il climax divertente della trasmissione, però noi abbiamo ricevuto la notizia della morte di mia mamma, che era in ospedale, tramite il telefono, perché all'ospedale ci avevano telefonato alle 4 del mattino. Quindi durante la notte abbiamo sentito sto telefono ed era tutto così sospeso, tutto così surreale, no? E questa cosa dopo mesi io me la sono riportata probabilmente in una rielaborazione, in un sogno, perché ricordo che la notte sognavo che mi squillava sto telefono, io sono andato a rispondere e la persona dall'altra parte non mi parlava, ma sapevo che era mia madre, cioè nel senso consciamente dentro di me, io sapevo che era mia madre, che però non voleva, non voleva far capire che era lei, perché voleva parlare con gli altri e non con me, perché non mi voleva mettere agitazione o apprensione, cioè questo era il mio pensiero. Secondo me mia madre aveva sempre fatto il tutto per cercare di tenermi, di proteggermi un po' da tutta questa situazione. C'era questa sensazione, capito? Cioè, nel senso che era lì e lei era rimasta un po' così perché avevo risposto io, invece lei si aspettava che rispondesse qualcun altro. Poi chiaramente nei mesi ci pensi, no? Nel senso che. E invece la cosa drammatica, e poi dopo torniamo un po' ai commenti divertenti, infatti, secondo me, sta proprio in questo. Perché c'è un canale YouTube in particolare, ma poi in realtà io parlo di YouTube perché tutto sto lavoro, un po' di ricerca, e mi sono divertito a farlo su YouTube, ma in realtà poi alla fine c'è le televisioni, ci sono i numeri telefonici, ci sono i cialtroni, i maghi, i stregoni, i parlatori coi morti, roba del genere. C'è stato un canale comunque in particolare, EV Paranormal, che è difficile già da pronunciare, no, EV Paranormal, ma tutto attaccato. Lui è mezzo ignorantello sto ragazzo, però lui fa praticamente questo lavoro di EVP, cioè diciamo lui fa metafonia fondamentalmente, cioè parla solo ma non ascolta, metafonia. Metafonia, esatto, cioè praticamente EVP sarebbero Electronic Voice Phenomena, cioè praticamente sarebbero appunto quello che dicevamo prima, utilizzando determinati strumenti su radiofrequenza lui riesce a sentire o a tradurre, diciamo così, dei suoni che diventano delle parole. Chiaramente lui fa sta cosa in una maniera del tutto arbitraria, cioè nel senso, a me se non concesso che quello che noi sentiamo sono le cose che lui dice di mettere nei sottotitoli, a volte in effetti potrebbe anche essere. Stiamo parlando sempre dei discorsi completamente scollegati, un po' come quando ha provato l'applicazione Marco, perché Marco ha scaricato un'applicazione sul cellulare che era Ecovox, esatto, che è un'applicazione famosa in questo ambito della metafonia, e praticamente ti tira fuori delle parole a caso, cioè nel senso c'è un sintetizzatore che tira fuori parole a caso tipo Gianni, casa, la luce, non piove, il giallo, cioè cose così, no? E praticamente lui che prende tutto sto cazzabuglio di frasi assurde che lui non sente neanche lì per lì, perché questa è una cosa tipica di quelli che fanno questo lavoro, cioè loro mettono i sottotitoli dopo aver fatto un processo di post produzione, aver pulito l'audio e via dicendo. E praticamente lui poi si permette praticamente arbitrariamente di tradurre quello che viene detto, cioè questo è un messaggio bellissimo perché ci dice che non piove mai vicino alla luce del sole di Dio, perché dobbiamo avere fede nei santi e roba del genere, che poi esatto, è proprio la cosa che poi a me mi fa proprio scazzare proprio profondamente, perché questa voler associare per forza qualcosa a qualcosa di intellegibile, cioè ossia che noi riconosciamo sia la religione, è la cosa più in malafede secondo me di tutti. E questo che fa? Lui sulla pagina YouTube a un certo punto dice: io domani faccio una sessione di metafonia, volete una parola da qualcuno dei vostri cari? E questo, che ne so, gli risponde Maria, gli dice: sì, io avevo mio figlio che è morto di bestemmia. E io, che ne so, sono Marco e vorrei parlare con mio nonno che mi voleva tanto bene. Mio nonno si chiamava Gianni. Sentito rumore. Esatto. E praticamente, cioè, tu, dopo che tu gli hai dato tutte queste informazioni a questo, cioè, non è che tu gli hai detto: vorrei parlare con mio nonno, fammi sapere se ti dice il suo nome, per dirti, no? Cioè quello va lì e dice Gianni, Katia, capito? Nato morto, capito? Cioè, queste cose così buttate così a cazzo di cane, che è palesemente in malafede. Cioè, io devo capire se sta gente ci crede taroccando, cioè tarocca la cosa perché gli piace, che ne so, il fatto di avere questo ascendente verso gli altri. Del fatto che lui comunque è una persona dominante in questa situazione, cioè lui sta lì praticamente e la gente pende dalle sue labbra fondamentalmente. Questa è un po' la cosa che a me veramente mi fa incazzare in un modo incredibile, perché poi la gente: bravissimo, messaggi positivi, grazie a te abbiamo fede. Non a caso esiste un reato che si chiama abuso della credulità popolare, perché poi questa cosa viene dalla notte dei tempi, viene da ben prima di YouTube, dei social, ok, semplicemente prima che se si ferma a questo siamo nei limiti della legalità. Sì, perché come, cioè, come dimostri che lui lo sta a fare malafede? Cioè, capito quello che ti voglio dire? Cioè lui alla fine non credo che chieda soldi, spero perlomeno, no? Non lo so, no, però fino a che non chiede soldi, fino a che non... Beh, però scusami Simone, non fai in modo di fargli fare cose strane. Se lo stai facendo ad esempio, per ritornare a bomba, su un canale YouTube che monetizza, i soldi non li stai chiedendo, ma li stai comunque facendo, abusando della buona fede. Non li estorci al diretto interessato, ma ricavi un guadagno per prendere in giro la gente. Sì, però non hai creato un danno direttamente a loro, cioè nel senso comunque... Quello probabilmente no, però... Anche perché tanti che campano su prendere in giro la gente su YouTube ce ne stanno. Senti, però, scusate, io volevo salutare, intanto è arrivato Lizard in chat che dice: ma una seduta spiritica per evocare Marzanne? Io però sinceramente gli ho risposto in chat, dicevo io evocare Andreotti perché secondo me sarebbe molto più divertente. Però adesso non ti dice niente. Quello non ci viene. A proposito di sedute spiritiche, c'era questo video che stavano su questa pagina. Se ci sei, batti un colpo, terrore alla seduta spiritica. E sotto i commenti bellissimi. Mai lasciare fare sulle spiritiche, anzi sulle spiritica per essere precisi, adolescente è pericolosissimo. Infatti devo fare sugli adulti, esatto, sì. Bisogna essere patentati e maturati. Ci sono persone che commettono, ci sono suggestionati, cos'è successo? No, non ci interessa, però ci sono persone che commettono spesso in queste, sì, in queste, sì, pagine, sì, tipo questa che dice: ma perché andare a stuzzicare forze che non conoscete? Esatto. Io ho smesso, cioè, troppe cose malefiche si scatenano. Da come parla non ha smesso, no, io. questa è un'altra un'altra ancora: ma per carità, è meglio non iniziare mai. In un'altra, ho visto bicchieri volare in una seduta, per quello poi hanno fatto la seduta, perché volavano i bicchieri che prima erano pieni e poi dopo erano vuoti. No, ma a me la cosa, infatti, la cosa che mi sorprende tante volte, pure un bicchiere, aiuto. Bicchiere. È quello che mi sconvolge tante volte, quelli che commentano, perché tu vai a vedere questi che fanno l'investigazione tipo il PIT, e sotto ci trovi Maria Teresa Assunta Do Carmine, no? Che già lo sai che sta a scrivere dall'ultimo paese... che dopo quel paese non c'è più la civiltà praticamente. Lo so, ma è così. ma è così, raga, cioè, c'è cazzo da fare. E questo fa Pizzi praticamente è leghista. Voi sotto Roma invece questi che sotto fanno, voi non tofete fare queste cose che so farse perché io ci parlo coi morti e lo so come funziona. Penso una farza. Ma invece, ma no. Gli spiriti si manifestano così, lo dico io che lo so che bene. Poi, Simone, ti voglio dire che, tra l'altro, ti faccio notare che non a caso, storicamente, culturalmente, in Italia i più grandi cialtroni, dalla signora famoso Iole in su, e mamma Ebbe, quanti ne vuoi, sono tutti nati nel centro-sud, cioè non tutti, ma una buonissima parte. Sì, io penso che una scuola tradizionale in Spagna e in Sud America, pure lì sa. Sì, no, io ti parlo degli italiani, poi in chiaro, in Spagna e in Sud America, ma sono tutti, sì, ma sono tutti cose, cioè, da come quella che si è messa lì, che ha lanciato la maledizione, ma ricordate quella là che faceva la sensitiva in televisione, e quello gli ha fatto la domanda: no, perché io lo sapevo, se vengo in studio posso venire in studio, certo, e poi venire in studio, no, perché così fa un bocchino, e questa cosa la fa ci ho lanciato certe maledizioni che mo vedrai per le prossime generazioni. Ma sì, attenzione, ma ha fatto il bocchino, scusa, non si sa. forse la maledizione l'ha fatta. Comunque, per esempio, contro il malocchio c'era un post che diceva, svelava l'antica formula per eliminarlo, e i commenti sono: si usano le forbici per tagliare i liquidi, ma non normali. Non so cosa, cioè, che vuol dire? Non lo so. Comunque, abbreviato a cazzo di cane, sono cose vere. Ho sentito che facevano un malocchio. Non posso dire di nulla. Non so cosa significa. Vabbè, comunque, ragazzi, meglio di una benedizione fatta da un prete non ce n'è. Questo no, è una benedizione. Esatto. Finziona sempre. No, scusate, finziona sempre usata, proprio così, vi giuro, scritto in maiuscolo. Comunque sì, perché comunque il prete funziona sempre. Cioè, no, devi mettere... certo, il prete funziona. Quante se ne è scopato il prete? No, Alex, esprimi le tue considerazioni. Lo intanto dice anche la Perpetua, il prete funziona sempre. Allora, prima di tutto chiedo scusa ai nostri cari amici che stanno a sud del parallelo di Roma, perché gli state dicendo: voi terroni, credete al malocchio. No, siamo terroni. Non è una cosa bella. Esatto, io sono più terroni di tutti voi messi insieme, visto che sono albanese. Allora, ma a me veramente, altro che morte di bestemmie, mi sale la bestemmia dentro quando sento queste cose qua, perché nel senso, ma perché? Cioè, nel senso, mi viene voglia di prendere la gente a schiaffi, e poi alla fine mi viene voglia di prendere me stesso a schiaffi, perché anch'io ho permesso tutto questo, perché se siamo arrivati a questo punto è perché anch'io ho permesso questa cosa. Non so cosa avrei potuto fare al contrario, ma porco Diaz, ecco, madonna santa, eh. Ammazzarne qualcuno prima che crescesse sicuramente, sì, solo che... ma no, è il fatto comunque, Alex, è il fatto di ridere, il fatto di ridere del mago di non assi niente, oh, oh, oh, il coglione, il coglione, invece andarlo a prendere quei sassi, questa è la realtà. Avremmo dovuto andare a prendere quei sassi. Dovete capire che nell'ambito del Maroc, che dovremmo pure parlare un giorno, delle cose maledette, per esempio ci sono degli articoli, ad esempio da blog.org, queste cose qui, oggetti etnici maledetti, attenzione a maschere suppellettili, commentano questa straniera, quindi, i negri, no. Questa signora straniera commenta, ovviamente scrive male perché è straniera, scrive 5 maschere, forse come si può capire se è maledetti? E gli risponde sempre quella famosa che risponde in tutto, così: dipende, puntini, il nome, puntini, e il significato della maschera, puntini. Ovviamente se voi prendete in mano la maschera della morte maledetta assassina, probabilmente potrebbe essere maledetta. Potrebbe. Quindi potete vedere il nome, cosa c'è scritto sull'etichetta della maschera. Il nome. E beh, questo lo dicono pure quelli del PIT, perché esatto, quando chiedono esatto all'entità come si chiama, se l'entità non gli dice il nome, è brutto, è una brutta cosa, credo, perché comunque a proposito momento, di... e poi dopo di sempre di questa qui che si rispondeva a un post, sempre la solita persona che è molto acculturata: siamo tutti puntini, prede puntini, la battaglia è tra il bene e il male, puntini, scaturisce forze, puntini, ma sempre inimmaginabile, questa, certo, puntini, questi sono i puntini, perché puntini, non sale virgola i punti e quindi puntini, puntini, e le entità sia buone che cattive, puntini, possono, puntini, anzi, puntini, lavorano intorno a noi. C'è alfabeto Morse? No, probabilmente sì, scontando i puntini. No, ma c'è un messaggio, esatto, nascosto, occulto, occulto, messaggio occulto. Ma tra l'altro, sapete, forse abbiamo evocato degli specchi. Io non l'ho messo nella scaletta, ma c'è una tizia che fa metafonia pure lei, ma questa veramente non sa parlare né in italiano né in nessuna altra lingua. E quando mette i sottotitoli della metafonia, cioè mette senza le O, con le senza le H, le K a posto de... cioè veramente, ragazzi, è imbarazzante. Cioè, tu immagini... è arrivato anche Carmine Puccio Consolo a farci compagnia. Grande, grande Carmine. Vabbè, allora a questo punto facciamo una cosa: dato che abbiamo parlato insomma di Ghostbusters e parallelamente anche indirettamente abbiamo parlato di Studio Spiriti, che io direi che ci ascoltiamo, però questa cosa la dobbiamo dire soltanto per quelli che ascolteranno la puntata in differita fra qualche giorno, insomma, perché poi non so Alex quanto tempo ci metterà a fare l'editing. Soltanto vi ascoltate l'esperienza di Lobby Frontali, che è veramente interessante. Cari morti bestemmiati, un saluto a tutti voi. Qui è Lobby Frontali che vi parla dall'oltretomba. In realtà sono in soffitta. Contestualmente al tema della puntata odierna di morti di bestemmie, vi volevo riportare un aneddoto personale che mi accadde a circa metà anni 2000, quando era ancora un pischelletto che andava a scuola. Avevo un amico, che chiameremo Luigi, i cui genitori possedevano un negozio di animali in centro città. Avevano da poco assunto un nuovo commesso, che chiameremo Michele. Io e Luigi spesso ci fermavamo in negozio per fare due chiacchiere, perché era una persona piuttosto simpatica, affabile, molto alla mano. Questo Michele, però, a detta sua, praticava esorcismi, sedute spiritiche, si occupava di esoterismo, di satanismo, ste robe qua, insomma. Me la cosa mi lasciò piuttosto indifferente, cioè ognuno ha le sue peculiarità, per carità di Dio. Luigi invece venne anche a lui alla scimmia dell'esoterismo e iniziò a credere un po' alle puttanate di Michele, perché tutto si poteva dire di Michele tranne che non fosse una persona carismatica dotata di un certo fascino, tutt'altro. Capitò una sera che lo andammo a trovare e lui, è il caso di dirlo con occhi spiritati, ci disse: ragazzi, ho capito perché i cani ogni tanto sembrano che abbaiano a caso. Perché so cani e che la fanno per mestiere? L'ho percepita stamattina, qui dentro nel negozio, c'è una presenza. Una presenza? Niente di meno. Sì, sì, sì, una presenza, è quella che disturba i cani. Dobbiamo assolutamente fare una seduta per metterci in contatto con questa presenza, capire quali sono le sue intenzioni e scacciarla. Io manco poco che gli ridesse in faccia. Però, presa da una sana curiosità antropologica, come direbbe il Pizzi, dissi, bah, e famola sta seduta. Attendemmo l'orario di chiusura. Ci raggiunse anche la ragazza di Michele, anche lei invasatissima da sta roba, che portò tutto l'occorrente per la seduta. Fondamentalmente candelotti e sale grosso. Chiudemmo la sarria cinesca dall'interno, accendemmo le candele, che vennero disposte a formare un pentacolo, il sale venne sparso a forma di cerchio, si spensero le luci e noi ci sedemmo a terra, in cerchio, tenendoci per mano. Cosa fondamentale, io all'epoca andavo spesso in giro con un registratore a cassette, che Michele subito decise di adoperare, in quanto a detta sua sarebbe stato in grado di captare la presenza. Vabbè, mettemmo il registratore al centro, prememmo REC, Michele recitò e ci fece recitare delle formule, poi ci disse di stare in silenzio e concentrarci. Passata mezz'ora, prememmo stop al registratore, rewind e con pazienza ci ascoltammo il registrato. Buona parte del tempo, silenzio. A parte gli animali che giustamente animalavano ogni tanto. Fino a che a un certo punto non si sente in modo lontano, flebile, un suono tipo... Michele subito strabuzzò gli occhi e disse «Sentite, sentite! Ecco, questa è la prova che c'è una presenza qui!» Io completamente basito e F4 dissi «Michele, questo è un treno che sta passando, stiamo a 500 metri dalla stazione, cioè si sente tale e quale con treno». «Ma no, è impossibile, senti bene, sì, questo è lo spettro di un cane che è morto qui in maniera violenta e non è riuscito ad oltrepassare la soglia ed è rimasto bloccato qui». «Michele, iterica che in utrena!» «Ma no, assolutamente no, qui le pareti sono troppo spesse per poter registrare i treni che passano». «Michè, ne sta passando uno adesso, senti? Senti che il suono è uguale». «Ma no, perché devi mettere in dubbio quello che ti dico? E questa è la prova che il negozio è infestato». A questo punto io cercai Manforte negli altri, ma anche loro diedero ragione a Michele. Cioè, «Voglio, non voglio insistere, ma chi sta in utrene? Si sente tale e quale che un treno, cazzo!» «Ma no, ma ti rendi conto, siamo in tre... che abbiamo sentito che è un cane che si lamenta e tu insisti a dire che è un treno». «Eh sì, perché siete tre scema». Vabbè, dopo un po' capì che era piuttosto inutile discutere con loro, alzai le mani e disse «Ragazzi, fate che cacchio volete, io me ne vado». Nei giorni successivi, Michele e Luigi cercano di convincere i genitori di quest'ultimo della presenza e della necessità di praticare dei riti per esorcizzare il negozio. Tempo 3 giorni e Michele si ritrovò a casa ad aggiornare il curriculum. Fecero presto perché era nero. Questo accadde in un tempo in cui internet esisteva, sì, ma di sicuro non era l'entità che è adesso. E alcune cose, per sperimentarle, dovevi proprio viverle in prima persona, come ho fatto io. La cosa che mi lasciò più allucinato proprio è come... una persona dotata di particolari caratteristiche personali, di un certo fascino, un certo carisma, riesca a far presa su persone neanche necessariamente ignoranti o fragili. Quindi quello che mi chiede adesso, figuratevi che potere hanno queste persone nei confronti di persone che stanno vivendo un periodo di disagio a causa, ad esempio, della perdita di un caro. In tutto ciò, personalmente non me la sento tanto di giustificare queste povere vittime, perché in buona parte dei casi preferiscono affidarsi a questi sciacalli e spendere migliaia di euro per il nulla, piuttosto che spenderne molti meno e rivolgersi a servizi o specialisti in grado di prendere in carico le loro situazioni e affrontare in modo più adeguato. E sto facendo riferimento in modo del tutto disinteressato a psicologi. E vabbè, in ogni caso, queste persone che sente e vede la gente morta, a meno che non siano dei casi psichiatrici, quello è un altro conto, che lo facciano nel bene o nel male, devono assolutamente morire di bestemmie. Ma soprattutto, cari morti bestemmiati, avesserei tutto quanto a Facebook. E quindi rientriamo, insomma, dopo questo bellissimo momento, insomma, ilare del nostro Lobby Frontali. Ricordo sempre, soltanto per coloro che l'hanno ascoltata la puntata in differita, E invece noi ritorniamo e prima di trattare, insomma, abbiamo trattato appunto della metafonia, in realtà lo saltiamo un po' tutto questo pezzo perché nella metafonia, come dicevamo prima, ci sono dei cialtroni, ma c'è anche gente che cerca di fare la cosa con scrupolo e si mettono lì, appuntano tutto, scrivono tutto, registrano tutto, ascoltano le cose, filtrano, insomma devo dire che poi alla fine veramente in quest'ambito c'è comunque gente che ci prova e ci crede e prova a fare, perché dicevo, che ne sai, magari stiamo a fare una cosa fatta bene. Però prima di parlare del prossimo argomento, che è la scrittura automatica, perché anche c'è la metafonia. 29. Esatto. Sì, esatto. Però insomma, noi ci piace anche sentire le esperienze delle persone che vivono purtroppo brutte esperienze vere che hanno vissuto sulla pelle, vai. Terribili, poi. Cioè io l'ho letto, mi è venuta la pelle d'oca. D'orca. E praticamente era un commento, lo potete trovare nella pagina che si chiama Fantasmi. Si parlava in un post dell'Aguscello, che è praticamente un ospedale che fu riportato. Tra l'altro, scusa, sì. Interrompo. Se ci fate caso, andate a vedere tutti questi qua che fanno investigazione paranormale. Ce ne fosse uno che non è andato all'ex manicomio di Mombello, sono andati tutti là. Aguscello. Infatti, secondo me a un certo punto gli spiriti si sono stanno tanto bene qui. Comunque, rispondendo a questo post che raccontava questa storia di questo misterioso ospedale manicomio, c'è questa ragazza che racconta la propria bruttissima esperienza. E vado a leggere. Vi racconto la mia prima esperienza paranormale per avere consigli. Puntini. Cioè, vi assicuro che non è la stessa persona di prima. Però i puntini vanno di moda. Quando non sai, metti le virgole. Cazzo, mettiamoci i punti e virgola. Non lo sai ma come si fa. Ma non ho capito, ci stai per narrare la sua perdita della verginità? No, purtroppo no. Poteva essere più divertente. Sono sempre stata appassionata di fantasmi e spettri. Ho sempre guardato i video su paranormale, ma non mi era mai successo niente. Perché normalmente se tu li guardi, ti succede sempre qualche cosa. Era una settimana fa. Ero con un'amica a una fabbrica abbandonata molto grande che frequento da diversi anni. Erano le 23:30, perché queste frequentano. Perché frequenti una fabbrica abbandonata da diversi anni? Esatto. Eravamo sedute al secondo piano con quattro finestre aperte e si riusciva a vedere tutta la stanza. In più ci facevamo luce con entrambi i nostri telefoni. Si spegne il suo, che era al 30%. Poi, dopo 5 minuti, anche il mio, che era 40-50%, e subito dopo si sente una o più voci durante un secondo. Era come se urlassero tutti insieme per una frazione di secondo, in modo rauco, così, tipo groll. È un fremito della forza, non capite. Comunque, puntini. Io dico alla mia amica, zitta, arriva qualcuno, tra parentesi, perché ovviamente ho il punteggio tra cazzo di cane, lei si gira verso di me con gli occhi nerissimi e mi risponde, non sono umane, no, cioè, la pelle d'oca. Se mi rispondi non sono umane, io di solito mi metto a ridere e non ci credo, puntini, ma in quel momento mi si è fermato il cuore, mi sono paralizzata, tremavo, ero terrorizzata, puntini. Mi sono sentita un nodo allo stomaco e stavo per piangere, puntini. Alzo la testa e la luce che si intravedeva dalla finestra non c'era più, puntini. C'era un buio totale, puntini. Nonostante due accendini accesi, che sono spuntati fuori non si sa da dove, non vedevo niente, puntini. Perché stavano lì a passare le canne, te lo devo pure spiegare. Se stavano a squagliare il cucchiaino, vabbè. Mi sentivo osservata da ogni parte, puntini. Dico alla mia amica... O toccata da ogni parte. No, osservata. Dico alla mia amica, tra parentesi, andiamocene, ti prego, ho paura. E lei mi risponde, aspetta, è meglio stare fermi in questi momenti. Stare meglio fermi in questi momenti e aspettare che passa. Quindi resto immobile, i due accendini iniziano a spegnersi piano piano, puntini. Ne tiro fuori altri due, questa c'è tra accendini, eccetera, squagliare roba col cucchiaio, che servono. Gli ultimi, grazie al cazzo, meno male, puntini. Che già le scorte. Non lo so. Se spegnevano rimanevamo al buio e allora ho iniziato a insistere di andarcene, puntini. E poi ha tirato fuori il lanciafiamme. Aspetta, lei mi spoilerà. Lei ha aspettato un po', poi ci siamo alzate insieme e abbiamo avuto i brividi nello stesso momento. Tra parentesi, e lei inoltre dice di essersi sentita sfiorare, capito? Iniziamo a incamminarci. Tra parentesi, quel giorno tirava molto vento, le finestre sono enormi e aperte. Ci avviciniamo alle scale e accendino mi scoppia in faccia, mentre l'altro, ovvero l'ultimo, inizia a indebolirsi. Io prego e a quel punto dalle scale parte una fiamma dall'accendino di 2 metri. E Una fiamma dall'accendino di 2 metri. E dura dalle scale fino all'uscita della fabbrica, con il vento che tirava. Quindi questo andava in giro con la spada di fuoco. Uscita. Capito? Uscite dalla fabbrica, lei mi dice che erano maligne, cosa? E che se volevano potevano spingerci dalle scale se scappavo, puntini. In macchina ho riacceso l'accendino per vedere se si era bruciata la plastica. È andato fuoco alla macchina. Aspetta, e se faceva ancora la fiamma dei 2 metri? In macchina sei una cogliona se te fa la fiamma dei 2 metri, puntini. Beh, funzionava normalmente. Da quel giorno dormo con la TV e la luce accesa e non mi passa il terrore, puntini. Adesso vi chiedo se ci credete e se a qualcuno di voi è mai capitata qualche esperienza. Cioè, tu già che mi chiedi se ci credi vuol dire che hai raccontato una stronzata. Esatto. Perché lo sai da sola che è una stronzata. Ma voi ci credete, io no. E soprattutto la mia domanda è, e paura, è perché a me possono seguirmi? O erano in quella fabbrica? Adesso non posso risentirli? La mia sensazione è che c'era qualcosa di maligno lì dentro. E l'accendino è una forza positiva che mi ha difeso. Oppure la preghiera. L'accendino è una forza positiva. No, è la preghiera. La preghiera. PS, non riesco a leggere i commenti. Quindi se qualcuno ha qualche consiglio mi scriva per messaggio privato. Ma perché? Ragazzi, cioè pure i cazzi... Cioè pure... L'accendino era una presenza benigna che la difendeva. Praticamente era lo spirito di Philip Morris. Esatto, probabilmente. No, perché è lo spirito del fuoco, della luce che purifica. Giusto, Alex? Porco tu. Allora, Simone, allora, dì la tua, Simone. Allora, no, aspetta, però allora, secondo me dobbiamo iniziare a fare il paio, perché io devo dire che trovo un parallelo, e adesso vedete c'è mio nonno che mi segue dall'alto, che dirà le cose. Trovo un parallelo con i racconti erotici. Non so se siete mai stati su un sito di racconti erotici. Ah, sì, quelli che sa raccontano. Esatto, è così la stessa cosa. Cioè, e arrivi il livello dove un tema scritto così raggiungerebbe il 3, una rimandata a settembre o una fucilazione direttamente in piazza, e comincia a scrivere queste cose. È meraviglioso, è proprio bellissimo nel suo essere terribile. Detto questo, io sono convinto che sia stata la fiamma e non la preghiera. Sì, assolutamente, a difenderla. Esatto. Tutto. Walter? No, io volevo dire, va bene tutto, ma un po' di tabacco mettetecelo. In effetti. Allora, ragazzi, vediamo un po' se sapete. Marco, dillo questo, te lo domando. Sai che cos'è la scrittura automatica? La scrittura automatica è quella che mi chiede lo swipe. Quando fai lo swipe sulla tastiera e ti scrivi le cose. No, altrimenti quale potrebbe essere? Guarda, di scrittura automatica io conosco. Simone no, lo aspetta, sai. Aspetta, lo so pure io, ragazzi, perché finché si scherzo, ma qui si entra nel campo del professionismo del paranormale. Esatto. Allora, ragazzi, qui lo vedete. Paranormale. Ma invece è normale. Voi immaginatevi la gente che apre il palmo della mano, ci appoggia una penna e questa penna comincia a scrivere. No, non è proprio così. Allora, questa è un'altra cosa. No, ecco, cioè. Sei sulla buona strada, ma non è proprio così. No, non è così. Io l'ho vista così. Non è così, perché in realtà gli occhi miei, quando Simone, avevo l'accendino con la spada di fuoco automatica. Chi tu? Io l'ho sperimentato. Dai, spiegaci. Un giorno avevo fatto il pane alle olive, ho scritto su Facebook: oggi grande giornata, ho fatto il pane alle olive. Poi mi arrivano un po' di messaggi: ma perché scrivi ste cose? Perché alla fine era il fantasma del nonno che mi aveva visto in bagno e aveva cambiato il messaggio da pane a pene. Ah, quindi quella è la scrittura automatica. Il nonno che ti vede in bagno e modifica e deve far sapere. No, in realtà Walter, tu vuoi dire la tua, dato che ci siamo, che vicino a un pene ci sono sempre due olive. A posto. Alex, tu lo sai cos'è la scrittura automatica? Assolutamente sì, quando io dico delle cose a Siri, Siri capisce quel cazzo che vuole. Infatti, secondo me il termine scrittura automatica è perché è un vecchio termine che si utilizza, insomma, da molto tempo, e quindi oggi, insomma, viene confuso. Però se voi cercate su YouTube scrittura automatica, YouTube vi dà la risposta corretta. Ed è la cosa. Praticamente, che cos'è? È una persona, fondamentalmente. Una persona che fa da medium, cioè nel senso che fa da tramite, diciamo così, tra l'entità, lo spirito che vuole comunicare qualcosa e il resto del mondo. Tipo l'omino della CGL. Quando praticamente lo spirito non riesce a comunicare o è troppo verboso per la tavola Ouija, come si chiama? Lo spirito se non per cazzo sposta la cosa e ti dice famo la scrittura automatica, e quindi praticamente la persona che fa scrittura automatica prende un foglio di carta, se lo mette sotto, prende una penna in mano e attende. Se lo mette sotto, notare. Esatto, lo mette sotto del posto. Il problema è stringere le chiappe per scrivere. E attende praticamente che lo spirito utilizzi il suo braccio, insomma, per... La maggior parte delle volte la persona che fa la scrittura automatica, se non sbaglio, è anche cosciente. Ora, c'è stato un video... Altra volta incosciente. C'è stato un video bellissimo, se tu vai a prendere la scaletta, guarda, proprio il primo video, che è fantastico, perché praticamente c'è questa qua che a un certo punto dice che comincia a fare la scrittura automatica, perché... vai avanti, perché poi no, questo video è importante, perché vai avanti, un po' ancora più avanti, ancora un po' più avanti, tipo, però attenzione, non fa partire le... Ok, praticamente questa qua che c'è scarabocchia sul foglio, no? Vedi, c'è sta... Sto scrivendo. No, non si capisce niente. Sto scrivendo volontariamente, non è automatica un cazzo. No, è automatica, scrittura automatica, però vedi che non si capisce niente. Infatti vai a vedere un attimo i commenti, mentre che tanto il video va avanti. La gente, insomma, la prende questa male. Questa sarebbe la scrittura automatica. Io vedo solo semplici scarabocchi su un foglio. La prende male la gente, diciamo. Infatti è stata mandata via, rispondo. Cioè, mandato via. Ah, ecco, vedi, cioè, nel senso, l'hanno già cannata questa. Pure quell'altro dice: io la faccio la scrittura automatica. Sono solo scarabocchi questi. Però qua c'è scritto Snaporax su poste. È chiarissimo. No, cioè... però, se tu ritorni su al video e vai verso la fine, ciò nonostante, questi qua che hanno fatto questo video ci hanno avuto pure il coraggio di tradurlo praticamente quello che perché vedi ce lo fa vedere a un certo punto ci fa vedere il foglio ricco di scarabocchi che non ha assolutamente senso, però vai ancora un pochino più avanti, c'è scritto sbombami. C'è scritto vai Marco, allora, vai. In pratica qualcuno tra virgolette ci dice che non vuole nessuno in quel piano della casa e ce lo fa capire molto chiaramente imprecando verso di noi con parole del tipo non voglio nessuno, non voglio parlare, stronzi, merda, eccetera. Cioè questo c'era scritto sul foglio. Invece c'è gente, insomma, che la scrittura automatica pare che la faccia un po' più seriamente, ma anche qui io ne ho viste tante quando ero ragazzino in televisione, con quelli là, i fattucchieri, insomma, che stavano sempre in televisione, tu telefonavi, dici sono Mario, quella cominciava a scrivere con la scrittura del nonno e diceva sono nonno, devo io bene, qui è tutto a posto, stai tranquillo e se dobbiamo essere tutti felici avere una vita fortunata. Questo di solito succedeva, insomma. Però poi la cosa bella è nell'ultimo link della scusa se ritorni un attimo sulla scaletta, è che ci sono i tutorial. Perché è importante, voi dovete capire che voi potete farlo. Requisito numero 1, il quoziente intellettivo non deve superare il 30. No, ma questa, cioè, la magia è dentro di noi. Questo è lui, esatto. Dice Isi de Strega, già sto video parte malissimo, ma in realtà non è l'unica. Questo è un video lunghissimo dove lei ti spiega come si fa, ma leggi i commenti perché sono importanti, perché la gente ti dà ragione. Io continuo a ribadire, c'è un solo strega ed è quello di Benevento. Marco, sono tristerrimo. Allora, no, tanto leggendo, è lungo, no, il video, infatti, questa racconta. Sto prendendo alcune cose, continua a parlare, adesso leggo quelle più interessanti. No, perché praticamente questa fa tutto un discorso che alla fine ti spiega come fa la metafonia, ma cioè è un po'... Io me lo so guardato come da sto video, perché chiaramente è per necessità antropologiche. No, ragazzi, scusate, leggiamo anche i nomi di chi commenta, perché abbiamo, vabbè, per esempio Jasmine Love, Inner Traveler, Silvia Cross, Acqua Scintillante. Poi c'è un certo Mariano Lambrusco che io rispetto moltissimo solo per il nome e il cognome. Poi vabbè, Romina Bisio, Titti Barbaro. Insomma, tutti questi nomi, League of Girls, Ari Lobue, cioè, ragazzi, Mario Driverman. Comunque questi gli danno ragione, che è vero che c'è questa cosa, la consapevolezza rilassata che è dentro di te, perché tu il messaggio lo trasmetti. Come facciamo a distinguere se quando scriviamo siano le entità da noi come facciamo a distinguere se quando scriviamo siano le entità città o noi niente, stessi. Marco, non ce la puoi fare. Vabbè. No, non ce la posso fare. Cioè, no, ma non si può capire proprio quello. Senza ingannarci da soli, però. Esatto, bravo. Cioè, in teoria sai a chi stai provando a contattare. Se vuoi risposte, da te o in generale esse arriveranno. Se vuoi parlare con qualcuno di specifico, lo devi chiamare. Se vuoi parlare con un operatore, premi 4. Esatto, se sei tu stesso. L'universo risponde di sentire qualcosa di familiare che conosci, che fa sempre comunque parte di te. Se parli con altri, se parli con altri che hai chiamato, senti che tu ti muovi, ma c'è altro oltre a te. Se vuoi riascoltare, vabbè, il messaggio, premi il tasto asterisco. Allora, Alex, tu, per esempio, non metti in ipotesi che arriva uno e ti scrive: sono un nonno Biagio, ti parlo da dove sono adesso, sono felice, ti auguro tanta fortuna, vi voglio bene, e via dicendo. Perché tu devi considerare che, però, la scrittura automatica si dice che venga fatta con la stessa scrittura della persona che ti sta parlando. Tu te la ricordi la scrittura di tuo nonno? Quindi tutti i morti che parlano con la scrittura automatica, ma automatica erano medici? No, no, però no. Se vai a vedere, c'è pure gente che scrivono. Quindi sarà un alfabeto. Scrivono tutto appiccicato. Però se vedi, se quando cambia entità, cambia scrittura la tizia. Quindi insomma, se io faccio tutte X, mio nonno era l'alfabeto. Esatto, bravo. Ecco. Quindi tu, Alex, ti ricordi la scrittura di nonno? No, però gli chiederei se ha dei soldi da darmi. Magari era nascosto da qualche parte. Anche no, che ti ricordi se hai messo oppure sì, fatto da Comunque questa era una strega, questa che insegnava il tutorial. Sì, era sì, strega, strega, vabbè, strega, no, mi fai da ridere, insomma, vabbè. E tu, Marco, invece la scrittura del nonno, te la ricordi? Assolutamente no. Simone? No. Simone sta a fare i cazzi suoi. Simone sta andando a fare i cazzi. Capito. Ah, beh, mio primo nonno è morto che avevo 6-7 anni, non lo so, circa. L'altro non l'ho mai visto scrivere, quindi semplicemente no. Walter? No, io non li ho conosciuti. Ah, proprio, hai proprio bypassato il disco. Quindi se arriva nonno lì è ancora peggio, cioè, nel senso. No, se arriva nonno non so manco se riconosce lui me. Dici, sì, dall'alto, sa. Sì, lui lo sa che tu sei tu, insomma. Sì, no, io non li riconoscerei. Bene. Va bene, volete raccontare voi qualcosa di vostro? Simone, tu ce l'hai? Spiritesco, non so. Qualcosa di spiritesco? Qualcosa di spiritesco? Qualche esperienza strana, ombre viste con le code dell'occhio, amici che hanno fatto sedute spiritiche. No, in realtà no. No. Niente, no. Non te ne frega manco un cazzo. Noioso sono. Sei un po' noioso stasera. Mi ricordo che invece a scuola le facevamo alle elementari, facevamo le sedute spiritiche, però ovviamente. Ma tu quando eri piccolo ci credevi ai fantasmi? C'hai paura di qualcosa? Certo, la voglia, i fantasmi, poi c'è l'uomo nero, quello lupo mannaggia, queste cose qua. Come no? Alex, tu invece ce l'hai qualche racconto? Allora, io sono un creduccio, nel senso, sono sempre stato uno un paurosone, infatti odio i film horror per questo motivo. Però non mi ricordo un momento topico. L'unica cosa è però una cosa di rielaborazione del lutto. È poco tempo dopo che è morta mia nonna, l'ho sognata. E in quel sogno mi sono reso conto che stavo sognando, perché appunto razionalmente dicevo: ma sì, ma so che sei morta. E quello è un sogno in cui ho sognato anche di volare. È stato molto divertente, ma era. Sognavo ed ero sicuro che era un sogno, perché è stato un sogno lucido. Detto questo per dirti quanto sono razionale in tutto quanto. Tipo la balena Giuseppina, insomma. Che è bello, Alex, che di questa cosa abbiamo parlato 20 minuti fa. Vedi quanto eri attento, insomma. No, lo so che abbiamo parlato per dirti, cioè, no, ero attentissimo del sogno, però ripeto, è l'unica cosa paranormale che mi riguarda, che per il resto, cioè, non ho mai avuto niente, e magari se sento dei suoni o delle cose penso che siano degli animali o dei ragni che mi fanno paura, per dirti, ma non gli spiriti maligni o benigni o quel che sarà. Io ce l'ho un racconto, però non penso che lo condividerò questa volta. Purtroppo ho condiviso già tante cose perché mi hanno ricoverato per questo. No, non è vero, però a Mombello. Sì, a Mombello, esatto. Mombello, cioè l'hanno riaperto, mi ci hanno messo dentro e poi da a Sbombello. Poi mi sbombi. Vabbè, Walter, la chat, qualcosa dalla chat, così giusto per poi. Guarda, dopo i nostri amici sono effettivamente abbastanza prolifici oggi, perché per esempio ti piace l'argomento dei fantasmi. Diceva Carmine Puccio Console: se fossi un vampiro frequenterei gruppi Facebook di racconti erotici, è così pieno di vergini. Anche io ho pensato di fingermi vampiro, però vabbè. Poi dice: se sei in stato di trance, scrivi senza guardare, distinto, un po' come cercare di capire cosa dice Pingu. porco Tenzing, dici. Eh sì, tutte cose così, insomma. Poi ovviamente commenti sull'accendino poderoso della nostra amica di prima, insomma. Va bene, allora io a questo punto manderei, sempre per quelli che ascolteranno il podcast in difterite, il Morti di Bestemmie della puntata ad onor di Alex Raccuglia, che non c'entra niente col tema, però è una morte di bestemmie, quindi ascoltatevela voi in differita. Ciao amici, io sono Alessandro e io sono un fanboy Apple, cioè Apple mi piace perché fa dei prodotti belli, sono proprio belli da toccare, poi sono sottili, sono di design, proprio design quello bello, cioè che tu lo tieni in mano e dici cazzo, questa è un'opera d'arte, non è un computer, è proprio minimale, c'è, cioè il minimo numero di buchini, presente le presine, le cose, cioè a volte c'è un buchino solo e se potessero toglierebbero anche quello, con l'alimentazione da Spirito Santo, è presente? Sì, perché è così, che è giusto che sia così, siamo nel 2018, siamo all'avanguardia dell'estetica e questa è la cosa fondamentale. Un computer deve essere anche bello da guardare, cioè un computer deve essere bello anche da spento, no? E andate tutti a fare in culo voi di Apple, ma a fare in culo male. Adesso vi racconto la cosa. Apple ha progettato un computer sottile, che gli va bene, sottile, sottile, sottile, e l'hanno chiamato MacBook, cioè il buco, cioè il notebook, il portatile, Mac Pro. Perché se non l'avessero chiamato Pro, cioè chi se ne frega, no? Lo chiama Pro. Però prima di tutto cambiano tutte le prese, mettono solo USB-C. Quindi dice, USB-C è una tua sorella. E sto parlando di 2 anni fa, eh? USB-C, devi cambiare tutti gli attacchi. Se hai un hard disk, non funziona. Se hai una chiavetta USB, non funziona. Se hai un monitor esterno, non funziona. Devi comprare l'adattatore. Si trovano a prezzi decenti, Però hanno rotto di coglioni, perché il precedente aveva tutti gli attacchi. Se hai una scheda SD, no, non funziona un cazzo. Devi comprarti l'adattatore. Poi trovi una vagonata di adattatori, e li trovi anche a dei prezzi decenti, però devi comprarteli, cioè senza mezzi termini. E vabbè, già questa è la prima bestemmiaggine. Poi fanno questo displayino, il touch, che sostituisce i tasti funzione. Che vabbè, è bello, ma vivevamo anche senza. Uno non è che può dire, sì, ma non sapevi che esistesse sta cosa, per cui ovvio che vivevi anche senza. Sì, certo, ma dopo che l'ho provata, cioè, l'impatto che ha avuto sulla popolazione in 2 anni è, ma sì, vabbè, carino, però non mi cambia la vita. E va bene. Punto terzo, fanno sta tastiera. Per renderlo ancora più sottile, abbiamo cambiato tutti i meccanismi e abbiamo inventato un nuovo modo di fare la tastiera. Oh, figata, una tastiera praticamente che i tasti sono piccoli, cioè piccoli sono grandi uguali, però quando vanno giù quasi non si sente, però funziona. E questa secondo me è quella follia del loro presidente esecutivo, invece il presidente esecutivo, bella definizione, amministratore delegato, che dice, fosse per me userei solo iPad, il PC è morto, siamo nell'era del post PC, va bene, cioè, poi voglio vederti a te a compilare le tue applicazioni di merda con un iPad, però vabbè. Fanno sta tastierina che è praticamente quasi come se fosse una tastiera touch, ma non è touch, bella, tutto di qua, sensibile, fa, si rompe categoricamente, la gente dopo 3, 4, 5, 6 mesi la rompe. È in garanzia, perfetto. Hanno fatto un richiamo praticamente anche per quelli che non erano più in garanzia, dove vabbè, portacela, te la sostituiamo, vuol dire prendere la tastiera, e siccome è tutto miniaturizzato al cazzissimo, cioè praticamente ti devono cambiare un mezzo computer, e vabbè, spese loro. Però considerate che fra un po' questa cosa non ci sarà più. Il mio vecchio computer, il mio vecchio MacBook Pro, è durato 7 anni qualcosina, questo qua non so quanti ne dura, non ne dura 6. Cioè, proprio muore prima e saluta ma sorta. Ok, va bene. E allora, insomma, se lo sono tenuto in saccoccia. Esce 2 settimane fa il nuovo MacBook Pro. Le dimensioni sono le stesse, ma c'ha la potenza. La potenza. Vedete, io non mi ricordo, non so se vi ricordate alle scuole elementari, quando c'era tutti che parlavano così, la potenza. Non so se la futtenji. Che c'era proprio questo brasileiro dilagante, perché la Roma aveva comprato Falcao, avete presente? Falcound, avete presente? Adesso a potenci, vabbè, parliamo della potenza, la parliamo dopo, parliamo della tastiera. Hanno sostituito la tastiera, hanno detto questa tastiera è ancora più silenziosa della precedente, nessuno sarà mai lamentato del rumore, questa tastiera è silenziosa, non fa un casino, di non sente veramente un cazzo, nessuno sarà mai lamentato del rumore. Poi vai a vedere, hanno aggiunto, detto, abbiamo reingegnerizzato la tastiera, tutti hanno detto, ma magari avete fatto una tastiera che non si rompe dopo 6 mesi, sarebbe carino, Poi guardano bene, beh, effettivamente sembrerebbe che possa rompersi meno, perché hanno preso la stessa tastiera dell'anno scorso e ci hanno messo una sorta di goldone, proprio preservativo, sopra ogni tasto, in silicone. Ovviamente è un preservativo fatto a forma di tasto, non è proprio un Durex, un Trojan, però vabbè. E questa roba qui sembrerebbe che con questo cazzillo in silicone c'entra meno polvere, se c'entra meno polvere, lì bastava un pixel di polvere per mandare tutto a fanculo, se c'entra meno polvere allora magari si rompe di meno. Ai poster l'ardua sentenza, lo sapremo fra 6 mesi, 1 anno se si rompe di meno, per adesso è speriamo. Ma parliamo della Futengi, la Futengi, abbiamo infilato in un computer alto soltanto un minchimetro un processore i9, cioè l'i9 della Intel con 6 core, e tutti, oh, minchia pelosa, porco due. Guarda, la configurazione costano l'infinito e mezzo, cioè praticamente un rene di buona qualità e neanche il mercato nero, cioè un rene figo. Alla fine ti puoi spendere diverse migliaia di euro, non migliaia, migliaia, porco due. Hai fatto Futengi, Futengi, Futengi. Però questo computer ha un piccolo problema. Piccolo, se lo usi alla massima Futengi, che ne so, se stai comprimendo un file, se stai facendo montaggio video con effetti, se stai compilando con Xcode, cioè cose che magari i professionisti fanno continuamente durante la giornata, il processore inizia a ciucciare energia e inizia a scaldare. Scalda talmente tanto che il processore dice, oh Cristo, fa troppo caldo, aspetta, vado più piano per raffreddare, e il processore comincia ad andare più piano. Va talmente piano che va più piano del modello precedente, va più piano del modello che costa di meno con i7. Cioè in pratica tu compri un modello, un computer che costa 1000 euro in più e va più lento di quello che costa 1000 euro in meno, perché si scalda troppo. Cioè l'unico modo per usarlo decentemente, e non sto scherzando, l'ho visto fare su YouTube, è infilare questa roba nel freezer e senza lavorarci, perché se ci lavori, cioè nel senso senza usufruire della tastiera, del monitor, del mouse, che cazzo, cioè se non ci lavori e lo fai elaborare dentro il freezer, allora la cosa può funzionare. Ora uno potrebbe dire, ma siete rincoglioniti? Perché io posso capire che la tastiera non l'abbiate testata a lungo e avreste dovuto. Cioè vuol dire che nessuno, cioè ovviamente, perché per evitare le fughe di notizie, non è che prendono questi prototipi, li fanno usare ai loro utenti, perché metti caso che uno fa una fotografia all'interno del campus e dice, ah, abbiamo leakato il computer nuovo, vabbè, e la tastiera non l'hai testata abbastanza, ma non te lo perdoniamo, ma posso capirlo. Ma un computer che quando elabora, che basterebbe veramente tenerlo acceso una cazzo di ora a lavorarci sopra, che quando elabora va in protezione, di conseguenza scala la potenza e va molto meno veloce del modello inferiore, e che cazzo, questo deve averlo provato. Vuoi dire che non, cioè, l'hai provato? Allora due cose: o non l'hai provato e sei un coglione, oppure l'hai provato e hai visto questa roba qua e nonostante tutto sei andato avanti lo stesso a venderlo e sei un truffaldino. Per cui c'è delle cose veramente brutte. Allora io voglio parlare con il responsabile del design di Apple. La gente che ti compra un Apple, un MacBook Pro, a parte i riccanza del caso, te lo comprano perché ci devono lavorare. MacBook Pro sta a significare lo uso per lavorare. Non è che tanto sono un professionista. Il professionista è uno che viene pagato per il suo lavoro, cioè uno che ci lavora col computer. Se ci voglio andare su Facebook, compro un altro computer. Se voglio fare la post-produzione delle fotine del cazzo, compro un altro computer. Se devo ascoltare Spotify, compro un altro computer. Se io ci devo lavorare, fammi avere un computer. Nessuno al mondo. E io sono 3 anni che faccio questi, faccio ricerche su Twitter, su qualsiasi newsgroup, su Reddit, blog post, eccetera, eccetera. Nessuno si è mai lamentato del fatto che i computer sono troppo spessi. No, nessuno. Tutti si lamentano del fatto che non c'hanno abbastanza prese, vario tipo, e che soprattutto si scaldano, che non si possono. Cioè, a noi professionisti, e io mi metto in primo perché io mi sono comprato un computer recentemente usato e ci ho fatto un affare comprando l'usato, noi professionisti vogliamo un computer che faccia il suo cazzo di lavoro. Me lo fai più alto di mezzo centimetro, la batteria dura 3 ore in più, sono contento. Me lo fai più alto di mezzo centimetro e la tastiera non si rompe e non devo mandare in assistenza e rimanere senza per una settimana, io sono contento. Me lo fai più alto di mezzo centimetro, mi costa qualcosina in meno perché devo miniaturizzare di meno, io sono contento. Me lo fai più alto di mezzo centimetro e quando c'ho bisogno della potenza, questo tira fuori il cazzo e vi fa vedere a tutti quanti che gira velocemente, io sono contento. Nessuno di professionista, nessuno che sia un professionista vuole un cazzo di computer che sia bello da vedere. No, non ce ne frega un cazzo della bellezza, deve funzionare bene, deve avere un ottimo rapporto potenza prezzo, qualità prezzo, cazzo di tutto prezzo, ok? Questo è quello che vogliamo noi, cioè quello che la gente vuole, ma tutti lo vogliono così. Noi, voi, ovvio che non dovete andare, signor Apple, ovvio che non deve andare a pagare, non deve andare a fare la guerra ad Android, cioè o a quelli che comprano il PC assemblato da Nuova Media SAS che ti mette dentro i componenti ad cazzo. Non devi fare quel tipo di concorrenza, però devi fare una concorrenza a gente che veramente le cose le fa. Avete fatto un computer, un cilindro, l'avete chiamato Mac professionale, Mac Pro, non si poteva fare un cazzo con questa roba qui, scaldava, bruciava, eccetera eccetera. Avete rotto la minchia con questa cosa qua, o dite basta, non ce la facciamo più, il mercato professionale non ci interessa, e poi voglio vedere quanta gente si mette a compilare le sue applicazioni su un MacBook Air, Cristo santo. Cioè, oppure fate le persone serie, detto, questo è un computer per i professionisti, è alto 3 mm di in più dell'anno precedente, ma vaffanculo, c'è una centrale nucleare dentro, ed è quello che voi volete, ed è quello che io voglio. Vogliamo un computer che abbia dentro una scheda Nvidia, perché le Radeon ci ha rotto la minchia. Cazzo, il mercato delle schede grafiche è morto 4 anni fa. Radeon non funziona più, no, vogliamo solo Nvidia. E poi voi potete dire, ma sì, ma comprati un box esterno. Ma un box esterno tua sorella, che cazzo compra un computer portatile, piccolo, eccetera eccetera, poi deve avere un box esterno alimentato, ciccione, proprio enorme, culone, proprio culone, per metterci dentro una scheda grafica spendendo 1.000 euro. Ma vaffanculo a mamme, da sore, da tutte quelle che ti vogliono bene, anche quelle che ti vogliono male. Ma terra bruciata. Queste cose io non le capisco, non le voglio più capire. Ma avete rotto il cazzo, adesso vedete di aggiustare questa cosa. Non lo farete, per cui prima o poi la gente comincerà a usare computer altri e vi metterà un bel ditino medio come emoji, perché adesso la cosa più importante che avete sono le emoji, probabilmente. Vaffanculo, morti di bestemmie. Mi è piaciuto questo morti di bestemmie di Alex, che se l'è presa con la sacra mela di Ocuto, e attenzione che secondo me poi lo verranno a prendere e lo meneranno, soprattutto adesso che stanno aprendo il famoso Apple Store a Milano, che... Sì, ma dice che domani, l'inaugurazione di domani, dice che già c'è gente che fa la fila, una cosa come sì, se regalassero sì. Qualcosa poi. Sì, no, regalano delle magliette. Ah, io domani vado all'inaugurazione. Io all'inaugurazione domani vado. Però io credo che possiamo creare una sorta proprio di gancio logico tra la morte di bestemmie del contributo di Alex e anche il discorso di Apple, perché chi non vorrebbe rievocare Steve Jobs e dirgliene quattro perlomeno per sfogarsi su chi ha lasciato in mano l'azienda, per esempio. Beh, quello. Ma allora posso dirti due cose. Uno, domani ci sono all'inaugurazione e farò una diretta in streaming. Non so se riuscirò ad entrare, perché non è che andrò lì domani mattina o adesso. In diretta in streaming. In streaming. La seconda cosa è che secondo me, ok, Apple di adesso non è la stessa Apple di allora, ma sono già quanti anni è che è morto? 5 anni, cioè nel senso la Fiat non dura 5 mesi dopo Marchionne, per cui, cioè nel senso, dopo comunque ha lasciato in mano l'azienda a qualcuno che la sta, non va bene come prima, ma non la sta distruggendo come chiunque altro avrà. No, ma io non fare. Ti parlo ovviamente di fatturato o di produzione, ti parlo proprio di completa perdita dell'identità originale, cioè una cosa aveva di buono tra tante Steve Jobs, il fatto che nella sua visionarietà riusciva a incanalare tutta l'azienda a fare quello che diceva lui, come a diceva lui. Mi è sempre lui, stato il cazzo. Per farlo, o come posso dire, per fare in modo che quantomeno ci fosse, come dire, un motivo per dare ad Apple quel connotato di azienda tra virgolette sopra le altre per molte cose, no? Adesso hanno prodotti che sono assolutamente uguali alla concorrenza, se non peggio, e costano il triplo senza ragione. però gli adepti sono tanti. Ma anche sti cazzi, e continuiamo a parlare dei nostri argomenti esoterici. Ma allora, era per parlare della seduta spiritica per evocare Steve Jobs, cioè il concetto a cui volevo arrivare poi era quello. Era quello, hai ragione. Questa mela dei qualcuno. Senti, ma Marco, invece tu ce l'hai un tema? Hai trovato? Sì, ma non farglielo leggere. No, francamente no, non c'è niente. Ti sei divertito a leggere i commenti della gente? Sì, però non c'è. Però non è che hai trovato niente. Beh, ci sono quelli che comunque mi invocano i preti. Sarebbe stato bello leggere qualche racconto dei fantasmi, tipo questo che avevi trovato. Secondo me, se cercavi, lo trovavi, qualcuno che raccontava la propria esperienza con i fantasmi. Cercato, ma non ci sono tutte queste grandi pagine, perché molte sono gruppi privati, quindi. Perché si vergognano. Si vergognano un po', sì. Poi, secondo me, li mortano dei bestemmi. Invece, mi sa che Simone aveva portato qualcosa che mi sa che era attinente di struscio, mi sa sta cosa, però insomma Simone, le patatine. Prendi le patatine. Non hai messo un link pure tu, qualcosa, no? Sbagliato. Sì. Io vorrei mostrare Simone gli autori di alcuni video che sono diventati anche piuttosto famosi, virali, usare dire virali, cioè sì, sono virali. E sono i video in cui vengono mostrati questi fantomatici supereroi nella vita reale. Uno piuttosto famoso è il video in cui c'è una macchina, anzi un camion, che attraversa la strada. Dalla parte opposta, cioè dall'incrocio perpendicolarmente, arriva uno su un carretto, probabilmente in Cina, in Indonesia. Lo sta per investire, arriva questa scia, questa cosa che porta via l'intero carretto, lo porta al lato della strada e... Vabbè, salva la persona. Sì, è flash. Photoshop? Però è vero. Flash o shop? È verissimo. Guai a dire se è fake. Non sei un infedele. Non capisci niente. E soprattutto non capisci niente di effetti speciali, perché si vede che non è, che è vero. Speciali. Si vede che è vero. E ci sono tanti. Come Barbara D'Urso, che non è Barbara D'Urso. Sì, che è tutta naturale. Esatto. E ci sono tantissimi altri video, gente che passa dai muri. Proviamo intanto a coinvolgere anche gli amici in chat. È chiaro che a scrivercelo magari è complicato, però se avete qualche rapido contributo delle vostre esperienze dirette, no? Incontri ravvicinati del terzo tipo, degli alieni. Non rientriamo, non andiamo, perché pure il Pit, poi la cosa bella è di questi acchiappa fantasmi che poi alla fine, quando non sanno più che fa, poi acchiappano tutto dopo, perché c'è stato uno che fa sempre una sessione di metafonia e parlava praticamente con i morti, ma parlava pure con gli alieni allo stesso tempo. C'era un alieno cattivo che ce l'aveva con lui in particolare. Scusa, però Simone, mo non è per essere, come dire, non per fare la punta allo stronzo, ma se un alieno è morto è uguale, cioè hai ragione. Non hai capito, lui parlava con i morti e con gli alieni, che essendo extradimensionali saranno la stessa dimensione dei morti, quindi sai che casino sei, cazzo, alieni polacci, alieni di bestemmie. Oltre a loro, tutta la loro sovrappopolazione, stanno pure i morti nostri, capito? Quindi c'è un'interdimensione e c'è il Salvinus della situazione che dice vai a far morto nella dimensione tua, scusa. che vabbè, comunque una volta parlerò. Ammazziamoli a casa loro. Esatto, muori a casa tua, insomma. Vabbè, io comunque, se non abbiamo altri argomenti, in realtà ce ne stanno. Se ci riesco, nel note dell'episodio linkerò un sacco di video, perché il bello è che YouTube è pieno anche di quelle collection dove, tipo, i 10 fenomeni paranormali ripresi dalle telecamere sono tutti veri, Però poi c'è un video che, se lo ritrovo, lo voglio far vedere ad Alex, però lo farò in separate sede, che succede una cosa abbastanza inquietante e io lo voglio far analizzare a lui, perché secondo me un po' per un attimo, insomma, devo dire che mi ha inquietato, devo dire, cioè, nel senso, c'è una situazione che mi sembra difficile da realizzare con After Effects o programmi simili. Però senza spoilerare, ti diciamo solo che il protagonista si chiama Mandingo. Esatto, cioè uno c'ha un cazzo di 20 metri e deve camminare per forza a 4 zampe. A 5, scusa. No, perché hanno tagliato un braccio. No, per equilibrare hanno tagliato un braccio. Ok. Ma per caso lo spettro come sarebbe? Prego? Lo spettro, in quel caso, di un'inversione del genere, come sarebbe? Quello con senza un braccio? O quello col cazzo lungo? E lì sarebbe un casino, perché... In realtà pare che le manifestazioni fisiche, che sono la cosa più rara di queste entità, Tra l'altro io avrei un sacco di domande. Io penso che comunque c'è un gruppo di Roma che fa queste cose abbastanza seriamente. Se ci riesco una volta li voglio intervistare, perché c'ho veramente tante domande. Poi mi devi dare delle spiegazioni, perché cioè sono delle cose che... Perché l'entità si deve manifestare con la forma umana? Come fa? Cioè, nel senso... Boh, vabbè. Detto questo, spesso e volentieri sono tipo mezzi busti, sono solo le gambe, quindi cioè non è che è difficile che è difficile, esatto, è difficile che che si manifestano interamente fisicamente, capito? Cioè, sono delle proiezioni. Vabbè, comunque... scusate, comunque io direi che la puntata se ti addormentavi era bellissima. Ciao. No, però aspetta. Scusi. Morite tutti. L'hai sentito, cazzo? Cioè. Secondo me ha detto cornuti tutti. No, ha detto. No. Secondo te che cosa ha detto? Ferite e lutti, ha detto. Alex, che ha detto secondo te? Tanti rutti. Qui ci vuole un accurato filtro di post produzione. No, era un messaggio per le ragazze subliminali: a scopate i brutti. Okay. Allora, dice intanto Peppe Rizzard che alle 23:55 su Berlusconia 1, che quindi presumo sia Italia 1, c'è la cosa, l'originale di Carpenter. Quindi perché è tutto il fallo. Bello, filmone. Molto bello. Filmone. Grazie a Carpenter che con questo capolavoro mi ha fatto venire la paura dei ragni per il resto della vita. Grazie a Carpenter che ha fatto cioè è riuscito a far diventare dei cult dei film di un tresciume infinito. No, beh, la cosa è veramente la cosa è figo, però quell'altro lì com'è, Fuga da New York, cioè veramente con Iena Plinsky. Quella era veramente trash, quel che trashissimo, facciamo... Snake, che quando esatto. Sparavano per fare il crossover con Video Ludica, lui in realtà si chiama Snake Plinsky ed è tra l'altro in omaggio a lui che Snake di Metal Gear si chiama Snake, però in Italia hanno tradotto Iena, non si sa bene perché, però vabbè, così. Vabbè, capirai, avessero cambiato solo quello. No, certo. Perché Iena è veloce. Ma sapete una cosa che chiamano sempre, però. Fateci caso se trovate le locandine originali dell'era in italiano di 1997 Fuga da New York e poi 1999 Fuga da Los Angeles, uno dei due è specchiato e se li mettete insieme praticamente Iena ha la benda da un occhio da una parte, cioè una locandina ha la benda all'occhio sinistro e l'altra alla benda all'occhio ma destro. Sì, ma così che, proprio ma che ce frega, ma che c'è in porta? Se no Salvino ci ha messo l'acqua. Infatti io adesso per chiudere questa puntata adesso con Marco siamo qui, abbiamo la tavola Ouija. Esatto. E stiamo chiamando la che era la console di Nvidia, la sorellella. Noi adesso abbiamo la tavola periodica degli alimenti perché andiamo a scegliere. No, la però cena. Dice che la sorellella non vuole la tavola, vuole usare la metafonia. Quindi accendi Ecovox. Non ce l'hai, l'hai disinstallato. No, sei un coglione. Scusa, parlavamo con la sorellella. Ma la sorellella, no, dai, possiamo far dopo. Post produzione ci mettiamo la sorellina. Vabbè. E allora a questo punto chiudiamo la puntata. Sì, basta, dopo sta bella figura. Io sto vedendo i mostri della televisione. No, comunque, ragazzi, forse non è stata divertente come tante altre puntate, ma è una puntata doverosa, dovuta. E mi raccomando, seguite tutti quanti questi canali e fate i vostri commenti scettici e soprattutto fate dei commenti seri e vedrete che verrete insultati perché non è possibile. Ma che è questa cosa mostruosa? Ma queste cose belle. Va bene, comunque io a questo punto mi dispiace che Alex ha parlato poco questa sera. Alex, ma non ti preoccupare, va bene così. Io sono qua per ascoltare, io imparo. C'è un poco da imparare qui. Vabbè, allora, i mortacci vostri. Siamo lì, mortacci. I mortacci vostri a voi e a tutti quanti, insomma, le vostre generazioni, per questa trasmissione da Simone Cusella. Ciao a tutti, buona serata. Walter Sbano. Oh. Walter Marco. Marco Gualdi. Ricordi quando ci chiamavamo tutti quanti con lo stesso nome? È vero. E prima puntata di Morti e Bestemmie, è vero. Esatto, eravamo tutti Mario D'Amore. Eravamo dei geni. No, e adesso no. Torneremo geni come una volta. E saluto quindi Alex Raccuglia. Ciao. Qui sempre dagli studi People for Work Paralab 22 barra, sì. 37 barrato, sì. Esatto, e soprattutto Paranormal Investigation Activity. È tutto da Runtime, ricordate, andate, insomma, fate donazioni su Patreon ma mi sa che Alex ha trovato tutto, quindi adesso è difficile fare le donazioni. E no, perché? Che so, visto che c'è solo una pagina, vabbè. Ma va, scusami, vado su Runtimer. Allora ve lo spiego, perché non è anch'io, ma è anche io. Se scrivi... No, c'è il redirect. L'hai aggiustato? C'è sempre stato il redirect. Vedi. No. Smentito da solo. Ma no, ma perché questa è la colpa di chi ci dà il coso, che non funziona un cazzo. È già sempre colpa di qualcuno, comunque. Vabbè, comunque l'importante, ragazzi, che nella vita è sempre colpa di qualcun altro. Esatto. Quindi, ricordate, scusa Simo, perché vai, scusa. runtimeradio.it/anche io, e ci sono tutte le istruzioni per andare a fare una donazione. Ci servono i soldi, perché stiamo finalmente costruendo lo studio che per settembre sarà attivo, e soprattutto perché dobbiamo anche andare. Questa cosa costerà l'alloggio di un giovane ragazzo, no, che già è stato sfruttato, no? Quindi va bene, detto questo, insomma, commentate, condividete, e soprattutto parleremo di cose attinenti, perché nella prossima puntata, forse, se riesco a convincerli, parleremo di zombie. Arrivederci. Sattaki a tutti zombie. E alla prossima. Ciao. Buonanotte, ciaone. Diteci se ci sentiteci. Diteci se ci sentiteci. Ragazzi, c'è anche l'Allabai, così per dire. Chi è l'Allabai? È un'ascoltatrice. È la koala. Una donna? Una donna, non ci posso credere. Sono nonno. Sotto, no. Ti volevo dire che sto bene. Marco Diaz, dai. Però tu Enrico dice che sentiamo. Io sento. Allora, quindi posso fare il fantasma di Marchione, abbiamo detto, giusto? Enrico, la senti questa voce? Vaffanculo.